Allora, siamo Cruciani e Parenzo, siamo due. Che cazzo sei? Siamo due signori, che lavorano alla radio. Conosci le radio? Confindustria. Ho capito, tu sei quello che fa le. Lei conosce la Confindustria? La zanzara, no? Bene, ottimo, ottimo. Oh, vedi, vedi che ci arriviamo alla fine. Con calma, con tranquillità. Eccoci qua, senza aggressività. Con calma. Conosci Alfredo Santamato? Mai cacato. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sto facendo grandi cose come Trump. I will be the greatest president that God ever created. Sto scopando belle fighe come Trump. Sto mandando a casa gli stranieri come Trump. Sto facendo grandi cose come Donald Trump. Donald Trump. Our leaders are stupid. Donald Trump. Our politicians are stupid. Donald Trump. Look, I'm really rich. Rich. Giuseppe, qua io sono un autotrasportatore e vorrei dire a Parenzo che io mi faccio il culo giorno e notte. Mi faccio il culo, a me non mi regala un cazzo nessuno. Ma non me ne frega un cazzo a me del signor Toros, perché tanto non mi dà niente. Cioè, ascolta, Parenzo, ma io ho telefonato per un altro motivo, non ho telefonato per Toros e cose cazzate varie. Per dirti che io faccio l'autotrasportatore, mi faccio un culo dalla mattina alla sera. Quando arrivo a casa, io vorrei stare tranquillo. Quindi se entrano senza il mio permesso io gli sparo. Non me ne fotto un cazzo. Io gli sparo per ammazzarli. Volevo dire che Vittorio Sgarbi mi ha veramente rotto il cazzo. E fammi parlare, stronzo! Comunque ragazzi, questi politici che hanno approvato la legge l'altro giorno sulla legittima difesa sono veramente dei buffoni. Si può dire che sono dei buffoni, ma lasciamo perdere l'oggetto della discussione, uno può essere a favore, a torto. Ma ti pare normale che dopo decenni di discussione, gente finita in galera, gente condannata, gente che si è dovuta difendere per la legittima difesa, gente che è andata in tribunale, persone morte, eccetera, anni di documenti parlamentari, talk show televisivi, proclami, questi fanno una legge, cioè la maggioranza in Parlamento fa una legge. Sì. Subito dopo arriva Renzi, arriva Grasso, il presidente del Senato. Corretto. E dicono: no, però non ci piace, tutto bisogna cambiarla. Cioè, questa cosa della notte bisogna cambiarla. Merito, hai ragione. Sono dei buffoni. Si può dire che sono. Questa volta faccio una cosa molto grillina. Sono dei buffoni. Improvvidi. Ma non è improvvidi. Ma cazzo, ma ci sono mesi e mesi di discussione. Sì, non dico che l'Italia aspettava questa legge. Adesso non esageriamo. Non è che siamo tutti ad aspettare questa legge. No, perché alla fine poi si tratta sempre di cose un po' giuridiche, tecniche. Chi può reagire, chi non può reagire. Tu sei molto più semplice. Tu faresti una riga sola. Potete sparare. Esatto, due parole, ma giusto? Tu fai una legge, la legge assolutamente. Potete sparare. No, ma come l'hai scoperta la sua... perché tu sei così, cioè sei una ma persona solo in Italia, in Italia potete sparare. Assolutamente, dentro norma, casa, dentro casa. Il codice secondo Cruciani, cioè potete assolutamente sparare all'interno di una proprietà. Nessuna ma è già così. No, ma si può ti sparare a leggere e non devi nemmeno che ha andare sotto indagine e non dire che sono noioso. Sì, una noia mortale, magistrato Tinti, il signor Bruno Tinti. Non voglio sapere niente, non voglio sapere nulla, non me ne frega leggete nulla. Almeno, non me ne solo frega per niente. Capire, già oggi io ti dico solo questo. Io già voglio oggi sentire la De Blanc. È possibile sparare. La contessa, già oggi è la contessa Patrizia De Blanc. La contessa Patrizia De Blanc. La contessa adesso. Sti cazzi. Che tutti gli italiani si sono assolutamente rimbecilliti, perché adesso userò un francesismo. Signora, no, questa no, legge la solo è di lei. Una presa per il la pistolera culo. Di Roma. Mi dispiace ma tanto. Mi faccia piacere, non è vero, va. Lei può dire quello che gli pare, ovvero non è vero, ma non è quello. È la, legge, è la notte e il giorno. Tanta paura. una paura bestiale. La signora De Blanc, con De sotto Blanc. Credo che fosse Esposito, sì, del PD, che gli diceva PD. La pistolera de Roma. Ancora De Blanc, la signora, la contessa pistolera è diventata. La contessa, benissimo. Tu entri di notte, sicure. Di giorno, Dio te sparo. Sono scritto in italiano. Faccio quello che voglio, ma quello no, che di giorno, conosce. Di notte. Ma che cos'è? Veramente una presa per il culo. Lei che, scusi, sa, adesso no, io non la voglio offendere. Perché no, ma mi offenda pure. No, ma noi non dobbiamo offendere nessuno. Qui non dobbiamo offendere nessuno. Io non mi offendo comunque. Mi fermo io. No, no, non la voglio offendere. Perché lei brava, non offendo. Dica quello che pensa. Solo Cecchi Paone offendo io quando mi prende per il culo. Va bene, Cecchi non c'è oggi. Meno male, viva. Scusa, però qui c'è una cosa incredibile. Non so se avete sentito la frase di Belpietro sotto. Ovviamente il programma quale può essere, Parenzo? Sempre dalla vostra parte, dalla no? Dalla vostra parte. Certo. Allora, signor Belpietro che dice: qui non offendiamo nessuno. Nessuno, è una trasmissione dai toni british pacati dove nessuno mai parla di migranti. Dai, poi parlano di grandi temi, di cose, eccetera. Marcato contro la Castaldini. Ma infatti, nuovo Marcato della Lega, no? Strano, non va mai. Sai che Marcato mette lì addirittura ogni giorno, quando sì va spessissimo sì dalla vostra parte o a Quinta Colonna, mette delle cose, dei cartelli enormi. Enormi e cartelli, nella Lega sì sono molto invidiosi in realtà di quello che, del fatto che Marcato è così esposto, diciamo, no? Sì. Stasera dalla sì vostra parte, ore 20:30. E uno potrebbe dire: dov'è la novità? Visto che ci sei, è una novità quando sei a casa, quando stai a casa tua in Veneto. Stai sempre a Roma, stai o a Milano, sempre in studio. Ma quando stai a casa tua in Veneto? Mai praticamente. Guardi, io apprezzo, grazie, apprezzo la Castaldini, apprezzo la, perché fa tenerezza vedere anche che viene lei, in TV, che viene in TV a difendere una vaccata di portata planetaria. Guardi, e vedere la passione con cui spiego, difende questa vaccata di portata planetaria, frutto fa di un tenerezza lavoro di mediazione. Uno, due, importanti, due, in cui a scanso di equivoci, state so buona Castaldini. Un secondo Castaldini, dai. La cosa incredibile è che questa del PD dice non è frutto PD di una grande non è del PD, è la portavoce del nuovo centrodestra, non è del PD, vabbè, è uguale, è dai una bravissima persona, alleati, non è dai uguale, è una persona preparata, Castaldini, è brava. Che una volta no è intervenuta questa, pure alla Zanzara, no questa, questa Castaldini, come la devo porta dire? Questa, questo vabbè è Marcato, vabbè, la signora Castaldini, vabbè, la portavoce del nuovo, questo è Marcato, questo Marcato, io lo dico anche questo Marcato, dico questo Marcato, questa Castaldini. Questa Castaldini, portavoce, Mario Giordano, Mario Giordano precisa, Mario Giordano mi scrive in diretta, sì, che si leggo direttore sì, Giordano, sì, si collega Marcato, Pirla, da Mestre, ha messo Pirla perché dice che ho dato un'informazione sbagliata. Ha ragione Giordano. Sanguisughe! Allora ragazzi, questa Castaldini, questa signora Castaldini ragione, del nuovo centrodestra, sì, del nuovo sì centrodestra, sì. Questa signora Castaldini ha appena detto vampiri! Dai, scusami, no, è lui che mi scrive, giustamente. Vampiri! Prima sangue giù, poi domani che saranno coccodrilli! Coccodrilli! No, domani direttamente assassini! Assassini! Maledetti! Perché no? Giordano, perché non fai un grande titolo? Il prossimo libro? Maledetti! Ecco chi sono! Maledetti! Tutte le foto, no? Degli zombie! Maledetti! Stupendo! Vabbè. Vabbè. A parte questa tua conversazione sì con Giordano, non via so cosa Gatta Cicova qualcosa, cioè avete che un rapporto cicova particolare. Ma vabbè, comunque sì io non voglio dire niente. È stato comunque nostro direttore, come allora, tu sai. Assolutamente. Allora, questo che mi hai fatto perdere il filo. La Castaldini ieri ha detto ma il filo di che cosa? La questa trasmissione non ha filo. Quale filo perdi tu? Allora, che la Castaldini perdi ha detto questa legge è frutto di mediazione, subito sì sputtanata, subito sputtanata da Renzi e dagli altri no, e da Grasso, subito sputtanata. Ragazzi, ci hanno messo mesi, dopo anni di conversazioni, anni ragione, di discussioni, ragione, hanno detto che bisogna cambiare. Su questo sono incapaci! Ti ho detto che sono hai ragione, incapaci. Vabbè, su io insisto, sono ragione, incapaci. Basta. Poi c'era Bonino, ragazzi, io non ne posso più. Ieri sera a Piazza Pulito. Bravissima. No, non ne posso più. Ecco, noi abbiamo bisogno di questo. Cioè di politici che ragionano, non ne pacati, posso più. Politici disinteressati, peraltro, disinteressati. Ormai è una forza tranquilla, è una forza preparata. Cioè Emma Bonino, cioè, quello è il Marcato. Ne avremo sempre più bisogno. No, Marcato, vergogna, porta a casa tua, migranti. Cioè tu stai dicendo, Marcato è una bestia, la Bonino è una persona non che ragiona. Detto è una stai bestia, dicendo, è un Marcato feroce è un animale, no, la Bonino è un affidabile, è che ragiona, eccetera. Questo, rispetto ma a Marcato stava a San Dio, cioè tu le chiavi di casa tua chi le daresti? Le chiavi di casa tua chi le daresti? Ma tu le daresti mai a Marcato? Beh, ma perché, a uno che dice portateli a casa tua, mi trovo veramente i migranti a casa, a quel punto se gli do le chiavi a Marcato. Bonino, vai. Ordine, legalità, umanità. non è che nessuno potrà cacciare 500.000 persone, bravo, neanche se affittiamo, affittiamo l'intera flotta di Ryanair, d'accordo? Quindi queste persone, in più ne abbiamo bisogno e ne avremo sempre più bisogno. Zuccaro si taccia, non può screditare le persone. Ottimo. Contro Zuccaro. Io invece, come sai, la Zuccaro. Sai? Non gli stai dando una mano. Zuccaro. Io sono tifoso di Zuccaro, che devo fare? Per me è un idolo assoluto Zuccaro. Comunque, Bonino. Il procuratore di Palermo ha detto lo stesso. E adesso c'è un'indagine, vedremo. Faccia le indagini, ma per favore si taccia, perché non può discreditare la reputazione di individui a gratis. Che palle, certo, senti queste discussioni. È la stessa cosa che ha detto il CSM. Ma non ha fatto peraltro niente, è stato invitato dai politici stessi a parlare in Parlamento. È 25 anni che i giudici parlano in tutti i modi. Basta con questa storia. Ha detto due cosine, rompendo il politicamente corretto sulle ONG, e gli avete rotto i coglioni. Ha detto cose che dice Donato da Varese, e quello invece è un PM e deve fare le indagini, non è che deve parlare di invasione. Quello lì, il dottor Zuccaro, lo dico con rispetto per le autorità politiche, civili e militari, ha parlato di invasione, ci ha dato un giudizio politico. Faccia il magistrato, trovi, chiami come si chiama quello lì, quel ragazzetto che disegna Donadel, le rotte lì? Sì, Donadel. Ecco, chiami Donadel, si faccia dare gli studi che questo ragazzetto di Donadel ha fatto e porti delle prove. Bestiale durante la notte, non riuscivo a dormire. Quando è che chiudete, cornuti? Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta La Zanzara. Perché mi avete messo i buddisti adesso? Perché mi avete messo i buddisti? Uno può sopportare questa cantilena? Cioè, un mio amico una volta si è separato, caro Parenzo, si è separato dalla fidanzata. No, si è fidanzato. Avevano un figlio insieme. Questa qua, cioè, le cose non andavano bene, non scopavano più le solite cose. Vabbè, no? Vabbè, te lo dico io, non scopavano più. Alla fine uno si lascia. Uno si lascia perché non scopi più. Alla fine uno si può lasciare perché non. La maggior parte delle volte è perché non trovi più. Dottore aperitivo? No, è presto per aperitivo. Però non ho detto niente di particolare. Palola scopa. Dottore ha sentito Palola Blutta, uscito subito, è arrivato filippino. Ma poi scusa, perché il filippino si deve sorbire? Filippino sempre vicino, pulisce rifiuti organici, inorganici, pulisce del dottore. Lui sempre plepala, vede, monitola tutto, riceve telefonate, seleziona miserabili. Comunque ragazzi, io dico una cosa. Un mio amico una volta si è separato dalla fidanzata perché questa qua gli aveva già rotti i coglioni, evidentemente. Si metteva la mattina presto, cioè dal letto, scendeva dal letto e si era fatto una specie di tempietto, una specie di posto. E sentiva questa rottura di cazzo che avete appena sentito. Ma perché sei così blasfemo? È una rottura di coglioni, è una cantilena che è una rottura di cazzo. I buddisti a me non mi hanno fatto nulla, assolutamente no. Sono però le persone più buone al mondo. Posso dire che è una rottura di cazzo questa roba? Se c'è una religione che non ha mai creato problemi a nessuno, sono proprio i buddisti. Salgo le scale di casa mia. Ma fanno più danni i buddisti o Marcato? Ma Marcato tutta la vita, no? Ma puoi mettere. Ma tutti vuoi mettere la moglie di Marcato, se è una moglie o Marcato con la fidanzata, che si sveglia la mattina e comincia: migranti, andai a casa vostra! E la moglie dice: ma un momento, siamo qui, stiamo prendendo il cielo. Cioè, quello è fissato con i migranti. Siccome io me lo immagino così, una mattina si sveglia, una persona normale cosa fa? Spegne, perché è così, spegne la radio, la sveglia, si sveglia. Allora amore, come stai? Maestro, cosa sognava migranti? Che ieri invasione dappertutto, migranti, mandai via, cazzo, maledetti! Dice: guarda amore, non sei dalla vostra parte, sei a casa, va tutto bene, siamo qua, vado, al posto civile, tranquillo. No, che c'è migranti. Quindi meglio il glangle dong dong dong dong di quello lì che si sveglia la mattina, che sicuramente la prima cosa che dice è: migranti, pia pistola, spara! No, amore, no, pistola, no! No, se mi suocera, non sparare! No, sei negro, spara! Cioè, questo è quello che avviene a casa marcato la mattina, capito? Ti stavo raccontando, ecco, che questo mio amico è stato costretto alla fine a mandarla via a calci nel culo da casa sua, la fidanzata. Sì, perché questa qua a un certo punto era impossibile ricucire un rapporto, no? Cioè, questa qua rompeva talmente il cazzo con questa cosa buddista che a un certo punto dice: vabbè, senti, vai a fare in culo, vai a pregare a casa di qualcun altro, oppure vai in un tempio e non mi rompere i coglioni. Perché è insopportabile questa cosa. Io non potrei mai stare con una o comunque con qualcuno in casa che mi fa questa cantilena la mattina, dai. Vabbè, adesso basta, sennò non possiamo inimicarci pure buddisti. No, ma mi pare che sono persone buonissime. A me mi stanno i suoi coglioni. Poi gli scrittori, lascia perdere i buddisti, gli scrittori che e rinchiusi nelle loro stanze, giustamente, perché scrivono, no? Nelle loro stanze. Come si dice? La famosa torre Burnea. Nelle loro stanze, nei loro palazzi, spesso anche lussuosi, pontificano su questa storia dell'ONG. Mi stanno sui coglioni, non so perché. Ho un moto di ribellione verso questa cosa qua, i vari Saviano, eccetera. Signor De Luca, Harry De Luca, è perché è anche una bravissima persona. Harry, un grande scalatore, accusavo... non vive in nessun salotto. Harry De Luca, dici scempiate, in nessuna magione. Se io accusavo Zuccaro di essere colluso con la mafia, cioè una cosa assurda, dai, sentiamo. Se io avessi fatto una stessa accusa di questo stesso genere a chi l'ha rivolta, cioè per esempio il procuratore generale di Catania ha detto appunto che c'erano queste sue convinzioni non suffragate da nessuno, se io facevo la stessa cosa nei suoi confronti, cioè dicevo magari forse il procuratore di Catania è colluso con i mafiosi, per dire, no? Beh, mi sarei preso una calunnia che sta mi scherzando, sì, sì, ipotesi, periodo ipotetico, mi sarei beccato una calunnia che mi spellava vivo. Perché non succede il reciproco? Cioè, questo è un paese tra uguali o no? Va o bene, lui è più uguale, il procuratore ha solo accennato a qualcosa, non ha accennato affatto, ma vedremo come. Va bene, dove andiamo? Andiamo a Domenico, provincia di Cuneo, vai. Sono io. Dimmi, sì, Domenico. Pronto? Dimmi. Sì, niente, volevo appunto dire la mia sulla difesa. Ci sono i campanelli per entrare in casa delle persone. Quando uno sbarca la tua proprietà, si deve prendere una fucilata. Per il fatto che adesso, come adesso, bisogna poi caricarlo su un pick-up e portarlo in campagna, farlo mangiare ai corvi. No, aspetta, andiamo con ordine. Abbiamo toccato due punti fondamentali. Dunque, fucilata e poi... Niente, non so, cioè, a come siamo messi adesso con questa legge qua è come prima, non hanno risolto niente, questi sono degli soprattutto incapaci. La vogliono cambiare, hanno approvato una legge l'altro giorno, siccome deve passare comunque al Senato, dicono che la devono cambiare. Dopo vent'anni di discussioni, anni di discussioni, questi incapaci della Camera e del Senato. Ma sono incapaci, ma confermo, è un discorso molto grillino, lo capisco, ma l'incapacità in questo caso è evidente, è come dire, è plastica, come si direbbe, plastica. Ma se non fossero incapaci, avremmo un paese a questo punto? Se non fossero degli incapaci, quelli che si mangiano, sta l'Italia, se la sono venduta, si sono mangiati l'Italia, si sono mangiati. Vabbè, il futuro. Adesso stiamo andando figli. Oltre, non ho capito, Domenico. La fucilata, non ho capito la seconda fase, oltre alla fucilata, Parenzo, che mi sembra che abbia detto chiaramente. Adesso, come siamo messi adesso, con una legge come abbiamo, se non lo nascondi, se per combinazione arrivano i carabinieri, io l'ho fatto fino all'altro giorno, il carabinieri, per cui certo. Se ti arrivano i carabinieri in casa che hai ammazzato uno, torta ragione che hai finito di vivere. È meglio seppellirlo da qualche parte. Sul pick up, se hai un pick up, lo metti nel portabagaglio di Roma. Anche lo porti in campagna. Questo i lupi. Ha visto troppi lupi, film però... di Quentin Tarantino. No, ma qua. La cosa curiosa è che ha fatto il carabiniere, però. Ha fatto ma è impossibile vivere in. Cioè, io dormo con la pistola sotto il cuscino, l'ho fatto per 30 anni. Attento che non le parte anche, non le parte un corpo. Attento che non le parte un corpo. Non ho capito, tu dormi con la pistola sotto il cuscino? Sempre. Adesso l'ho cambiato, ho preso un calibro più leggero perché prima avevo il 357 mani. Figurati quanto è contenta la moglie. Ma perché? No, la moglie è contentissima perché dorme solo tranquilli con me in casa. Allora, prima però, per cui non mi è interessante questa cosa. Dunque, tu hai fatto il carabiniere fino a quanto tempo fa? Fino al 2012. Ma hai ammazzato gente pure? No, qualche sparatoria, ma niente, mai ammazzato nessuno. 357 Magnum. Quella è la mia personale. E la tua personale, che tu hai ancora il porto d'armi, giusto? Certo. E dunque, adesso invece che te sei preso? Adesso, ma io armi ne ho la casa piena, però adesso l'ho cambiata. Casa piena di armi. In America hanno autorizzato, in uno stato, non mi ricordo dove, anche le università ad avere armi dentro. Vabbè, quella è una follia. Lo trovo meraviglioso. Meno male che anche il carabiniere La trovo una cosa civilissima, di una grande civiltà. Sai quante sparatorie sono avvenute nei campus universitari perché qualcuno è impazzito? Esageriamo adesso. Però non ho capito bene. Allora, quante armi hai a casa, scusami amico mio? Ero cacciatore, adesso non vado più a caccia. Sì, però ma quante armi hai a casa adesso? Non lascia perdere. Ma adesso ho 5-6 fucili. 5-6 fucili. Dunque, se entrasse un ladro, tu spareresti in faccia subito, immediatamente. No, no, io appena varca l'uscio, ma già in cortile, eh. A me la se varcano, io sono il carabiniere del quartiere, no? Perché sì, purtroppo dobbiamo organizzarci a essere così, io l'ho sempre fatto, lo continuo a fare. Cioè tu sei praticamente nel tuo quartiere in provincia di Cuneo, adesso non so quale sia il paese. Si chiama eccesso colposo di legittima difesa. La Mondovì ridente. Allora, questo signore ex carabiniere. Se lei spara anche quando uno sta scappando, si chiama eccesso colposo in legittima difesa. Tu spareresti a qualcuno che scappa? Non doveva venire, sono cazzi suoi, non si deve permettere di venire in casa mia. Bravo, io voglio abbracciare quest'uomo che è un onesto cittadino, ha fatto il carabiniere, il quale ha diverse pistole a casa sua, non ha paura di dire che sparerebbe a un ladro appena varca l'uscio, appena entra in un condominio, appena entra, magari anche qualche inseguimento, un piccolo inseguimento, no Domenico, che dici? Sono già successi, Cruciani, non le posso raccontare tutto cosa è successo, se fossimo al bar. Raccontami, che hai fatto, amico mio, che hai fatto? Dimmi. No, non glielo posso dire, perché è giusto che qualcosa non scappi, altrimenti poi attiriamo troppo l'attenzione. Altrimenti però, te fanno un culo così, però io dico una cosa, caro Domenico, tu sei il prototipo del cittadino perfetto, caro Parenzo, inutile che tu dici il pistolero, adesso Parenzo dirà questo è un pistolero, questo è un assassino, cioè, quello che dirà Parenzo, perché non te ne frega niente di cosa dicono, penso sia reciproco, delle mie idee e in casa mia non deve venire nessuno, e stia tranquillo che chi lo sa non viene. Allora, ma questo signore è un cittadino esemplare, Parenzo, esemplare. Fermi tutti. Mai venerdì crucia fino alla notte. Sono veramente disgustato da quello che conducete, è una radio veramente seria della Confindustria. Ma non mi rompere i coglioni, stronzone! Stronzone! Il segnale orario vi è offerto da... Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it, col TH. La Zanzara. Ma non me ne frega un cazzo a me del signor Toros, perché tanto non mi dà niente. Sto tornando verso casa, mi viene da piangere. Che schifo, siamo pieni di negri. Che schifo. Ciao Giuseppe, sto facendo il cammino di Santiago. Mi sono dimenticato di prendere l'acqua e sono a 14 km dalla prossima città. Non c'è intorno a me un cazzo di nessuno. L'unica cosa che mi spinge ad andare avanti è il podcast della Zanzara. Siamo al top! Siamo al top! Viva Parenzo! Là ci vuole l'anarchia. La mia ragazza dice che abbiamo chiuso perché ascolto la Zanzara. Diglielo, amore. E ci stavamo per sposare. E lei, Michu, che cosa ne pensa? Ah, beh, penso che è molto più facile essere contro il razzismo quando si abita a New York e quando si abita a Saint-Denis, eh? Io, per esempio, sono di Saint-Denis e, beh, sono razzista. E voi, invece, voi vivete in questa casa e non siete razzisti per niente. Francamente, Michu, lei si considera un razzista? Ah, sì, francamente, sì. Io con gli stranieri ci vivo insieme, non li posso soffrire. Non fanno niente, sono sporchi, ci fregano le macchine. Gli danno pure le case prima che a noi, guadagnano più di noi con tutti i sussidi che hanno. A scuola i nostri figli non imparano niente perché il 70% è di stranieri che non parlano una parola di francese. Ci rompono con il loro chador e dovremmo pure pagare per costruirgli le moschee. Beh, è tutta un limite. Ma insomma, che ne è del diritto alla diversità, della tolleranza, dell'ideale della Francia terra d'asilo? Boh, io che ne so che ne è. Non ne so niente io. Ma è orrendo essere razzista, è terribile, immorale. Ah beh sì, ma uno mica può cambiare. Allora lei vota Le Pen? Ah no, non posso votare, non ho fissa dimora. No, appunto, perché sono 5 anni che mio fratello ha chiesto un 3 vani, ma siccome il figlio è morto non glielo danno. E allora perciò mi trovo senza fissa dimora, perché la moglie ha il cancro e dall'ospedale l'hanno rimandata a casa. Sì, vabbè, ma insomma, no. Se lei votasse, voterebbe Le Pen. Ma tutti gli arabi che conosco a Saint-Denis stanno in 5-6 anni, sa? Hanno molti bambini, per forza. Quello che lei non capisce è che non sistemerà i suoi problemi personali l'essere razzista. Ah, beh sì, ma quello che capisco è che 3/4 del pianeta stanno nella merda. Allora cercano di piazzarsi dove c'è meno merda, cioè qui da noi. E poi una volta qui bisogna che qualcuno si stringe per fargli posto e farli sopravvivere, oh? Vabbè, appunto. Ah sì, ma finora chi si è stretto per fargli posto sono quelli di Saint-Denis, mica quelli di Nui. Poi quelli di Saint-Denis si devono stringere continuando a sorridere, perché sennò è immorale, vero? Mi dica un po', Michou, non sarà un po' comunista? Ah, no, non sono comunista, se no è da un pezzo che avrei avuto la casa, eppure mio fratello. Allora, per fare una trasposizione di questo film che si chiama La Crisi, Parenzo, bello, e tu abiteresti a Nui, a Nui, a Nui, a Nui, e sì. Donato da Varese e altre persone abitano a Saint-Denis. A Saint-Denis, cioè lì c'è il bobolo. Il bobolo, il bobolo, e sì, tu sì, invece sì. abiteresti nella, no, nella upper, lo abita la upper class. Bravo, upper, bravo, class. Sì. Quindi... Ragazzi, io sono incazzato nero per una cosa. Adesso lasciamo perdere questa roba. Sentiamo. Che è un film straordinario che si chiama La Crisi. Sono incazzato nero per una cosa. Poi dice la Chiesa, no? Poi dice la Chiesa. Allora, c'è un caso abbastanza famoso in Toscana che è stato soprannominato il caso del mostro di Forteto. Sì, un signore che si chiama Fiesoli, che si chiama Fiesoli, che oggi credo che abbia una settantina di anni o giù di lì, il quale, già condannato nell'85 in via definitiva per molestia sessuale, atti di libidine violenti, poi è stato condannato, sentenza in appello, a 15 siamo anni nel Mugello, no? Siamo nel Mugello, no? Forteto è nel Mugello. 15 diciamo, anni e 10 coordinate. Mesi per altri reati, violenza sessuale. Tu sai che lì c'è anche un'importante comunità agricola, che è quella appunto del Forteto, dove, esatto, no? Dove si sarebbero, sai, però dove si sarebbero svolti questi fattacci. Comunque, esatto, lasciamo, esatto, perdere. Adesso i dettagli non, no, sono, ma importanti. Che la gente, il questo fatto tizio, di cronaca, la realtà è quella: c'è un pedofilo riconosciuto dalla giustizia italiana, certo, in appello, ma c'è anche una condanna di primo grado dell'85 per atti di libidine e violenza. Un pedofilo che circola liberamente. Già per me questo qua è abbastanza incredibile. 15 anni per atti ripetuti di pedofilia, eccetera. Comunque gira libero, non solo, va in chiesa puntualmente, accolto evidentemente dal parroco peraltro di colore, non c'entra niente, se non sto facendo, vabbè, del razzismo assolutamente, però è un parroco assurdo. Di colore, ah, è un parroco assurdo. Di no, è un parroco, però, è un parroco, ma che si vuol dire? No, non c'entra nulla. Dice, non c'entra, un parroco di colore che si chiama Don Emanuel, il quale pare che gli faccia fare il chierichetto. Leggo qua dai giornali dei giorni scorsi di Firenze: Fiesoli chierichetto tra i bambini. Si allarga lo scandalo del profeta nonostante la condanna per abusi. Chi cazzo ce l'ha mandato lì in chiesa? La chiesa cosa fa? Perché non lo caccia dalla chiesa questo pedofilo? No, ma soprattutto dove vive adesso questo Rodolfo Fiesoli? Vabbè, questo vive, non c'ha la condanna definitiva, ma vive ancora in quella comunità? Il vive vescovo, ancora nella sua azienda, in quell'azienda? Il vescovo di Fiesole che dice non sapevo Fiesoli. Che ser- di Fiesole, vescovo Fiesole, di Fiesole, bravo. Fiesole è lui, Fiesole, Fiesole sì, bravo, sì. È il luogo. In fondo, sì, esatto. Non sapevo che servisse messa. Arrivò in una parrocchia un anno fa, dissi di accoglierlo. Bah, di sì, accoglie. Quello è un pedofilo. In parrocchia ci vanno pure i bambini, i minori. Roba pazzesca, dai. Lo cacciassero dalla chiesa, dai. Abitasse a casa, tranquillo. In chiesa ci vanno i bambini, ci vanno i minori, dai. Mauro da Torino, vai. Mauro. Pronto? Dimmi. Pronto? Ciao. Senti, io volevo portare una mia testimonianza sulla legittima difesa. Io e un mio amico, sì, che siamo, sì, due persone che pensiamo che in casa propria non esiste di legittima difesa. Ci siamo messi d'accordo che se entra uno in casa nostra lo secchiamo. Sì. Lui ha il porto d'armi e gli spara, io ho qualche arma, sì, bianca e lo faccio a fette. Sì. Poi ci affette. Sì, poi ci sentiamo reciprocamente per, sì, assicurarci che non ci sia nessun altro che sia testimone di questa cosa, certo, e poi facciamo sparire il cadavere. Se per caso c'è qualche testimone, potete uccidere anche quello nel silenzio assoluto, no, metterlo in un sacco nero e no, caricarlo su un Areno 4. Se c'è qualche testimone, purtroppo dobbiamo chiamare la polizia. E purtroppo, con tutti, certo, i problemi. Ma tu stai scherzando o stai dicendo sul serio? Cioè, tu sei veramente convinto che la soluzione sia quella di farlo a fette e poi occultare il cadavere per non avere rotture, no, di coglioni? A fette nel senso che io, non avendo un'arma bianca, devo, diciamo, farlo fuori con un'arma bianca, non avendo un'arma, sì, da fuoco, devo farlo fuori con un'arma bianca. Non è che lo taglio a fette e poi lo metto in un sacco. Però il cadavere lo facciamo sparire, perché questo Stato non ti tutela e perciò se anche tu prendi e fai fuori uno a casa tua che è venuto per violentarti, per rubare tutto quanto, poi vai incontro a una infinita serie di guai. Che dici, Parenzo Di Mauro? Dico che il numero di telefono di questa persona verrà dato alle autorità competenti. Ma perché? Ma in che primo, c'entra adesso? In prima cosa istanza. Cosa c'entra? Cosa in c'entra? Seconda, in ma seconda che, istanza che ha fatto la, di male? Tua, ma, la campagna ha manifestato, tua, io... di Trump, della Marie Le Pen. No, Marie Le Pen non parla di armi? Di giustizia personale. Come no? Ma di non armi, mi sembra. Certamente. Il signor Matteo Salvini, quello che ha fatto il safari al Cara di Mineo. Quello che ha fatto il allora? Safari al Cara di Mineo. Ecco, voi siete complici di questo clima, per cui il primo idiota che chiama l'800-24-0024 molto bene, abbiamo dato un nome anche a questo personaggio. Ma perché il vuoi primo... denunciarlo? Che ha fatto? Ha detto semplicemente detto quello che farebbe. Il primo idiota è facile fare il furbo quando si abita ai paroli a Roma. È di Torino. Lei dice? A Torino sono tutti educati. Io lo farei a fette, ma non le pare eccessivo. Lei dice io lo massacrerei di botte, pugni, calci, poi lo brucerei vivo. Ma dico, scusi Mauro, non le sembra famiglia. Eccessivo? A lei te dice? Non ti, a te lei non pensa? Dico, la tua a Torino famiglia. Dicono sempre tu che... Tu abiti in Parioli, che cazzo te le frega a te? Tu abiti in Parioli. No, non è in Parioli, è Prati comunque uguale. Grazie, a Prati, sì, esatto. Meglio ancora, a Prati, avrai la guardia armata sotto casa. Beh, no, questo te no. Credo nessuno non... ti viene a rompere i coglioni. Invece uno che vive in periferia, prende e si deve aggiustare. No, quello è vero. C'è una piccola differenza tra le persone che vivono in certi contesti e persone che vivono in altri contesti, ma io mi metto in mezzo, perché non è che tu dove vivo, vivi invece, non vivo a Quarto Giaro. Vivo vicino dalle parti, diciamo, di Via Savona, no, a Milano. Diamo anche il numero civico. Ma no, perché devi dare il numero civico? No, vicino a Via Savona, perché tutto, perché trasparente, casa ora, di vetro. Perché hai fotografato il mio cesso, la mia doccia, che mi hai procurato un casino. Anche da libero, adesso ci arriviamo. No, potevi leggerlo, sì, certo. Comunque, perché vuoi accusare Mauro? Non ho capito. Perché vuoi accusare Mauro? Il quale sta dicendo Della si autoaccusa di che cosa? Sta dicendo una cosa molto chiara, molto semplice. Chiara, si sono sì. messi d'accordo insieme. E tu sei d'accordo? Ma no, ma uno può reagire come vuole. Ma no, dentro ma casa d'accordo o no con questa sullo sparare sì, fare a fette quello lo decide lui, sei no, occultare il cadavere no. Di sparare, se poi ci non fosse avere una legge, se ci fosse una legge che protegge al 100% chi reagisce. No, non lo protegge al 100%. Tra l'altro, altrimenti la di cosa staremmo discutendo? Di cosa staremmo discutendo? Di cosa staremmo discutendo se no? Il primo uno dei due rami del Parlamento proprio ieri ha approvato uno dei due rami del Parlamento ha approvato già proprio rinnegato, ieri una legge l'hanno già rinnegata intanto l'hanno già rinnegata la legge vigente ti dà già la possibilità ma di sì, sparare certo. Gli posso sparare senza se e senza ma dice ricorda Bruno Tinti dalle pagine del Vabbè. Fatto Quotidiano oggi sì. D'accordo? Vabbè. Ma non l'hai letta bene perché non è così la legge perché attuale comunque lasciamo perdere ma lasciamo perdere ragazzi la realtà grazie Mauro la realtà è che uno tra i dirigenti del PD oggi dicono togliamo la parola notte meno male che la legge va al Senato sono dei cialtroni punto e basta Claudio dalla provincia di Pisa sono dei cialtroni anni e anni di discussioni inutili talk show discussioni sulla legittima difesa per partorire un aborto che devono cambiare ti rendi conto o no? Una legge o inutile oppure un aborto. Dunque, Libero Quotidiano da notizie, come sapete, sempre molto importanti, liberoquotidiano.it. Foto di Parenzo con degli occhi totalmente stralunati e a fianco il water, il cesso del signor Cruciani. Titolo idraulico. Parenzo è impazzito. Due punti. Si infila nel cesso di Cruciani per guardare i crostoni e ci trova questa robina. Clamoroso! Guarda, tu clicchi, cosa trovi? Questa volta c'è una foto, sì. Le foto che avevo già pubblicato io però, per guardare i crostoni. Sorpresa, ci trova i siringoni. L'uomo che ripete ogni... e questo è il testo della notizia. Dimmi. L'uomo che ripete un giorno sì e l'altro pure che Romano Prodi, non si capisce cosa c'entra questo peraltro, è stato il miglior premier italiano, ossia David Parenzo, sì, è uomo di parola. Esatto, c'è anche quello. L'uomo, capito? Uno dice, che cazzo parlano? L'uomo che ripete un giorno sì e l'altro pure che Romano... che cazzo c'entra ospite nella notte anche qui sembra no ospite nella notte tra il 3 e il 4 maggio a casa di Cruciani con cui conduce la Zanzara su Radio 24 aveva promesso a chi ascolta la trasmissione un reportage dalla casa del collega il quale cosa nota non nutre grande amore per acqua e pulizia personale e il conduttore più simpatico del pianeta Gaia in effetti quel reportage lo ha fatto prima indugia sul water un poco incrostato e dunque sulla doccia rotta poi riportano il mio tweet no quello che io ho scritto tutto. Vabbè. Ed eccoci all'atto finale, l'uomo che ritiene Prodi, anche qui dimmi, ma che cazzo c'entra? Il miglior premier del creato non solo si infila a nottetempo nel bagno di Cruciani per guardare nel buco del cesso, ma rovista anche tra i suoi effetti personali e immortala lì una foto, spunta un'ambigua sacca dove fanno capolino orologi da corsa e non auricolari, un rasoio e due misteriosi siringoni. Adesso voglio spiegare, ragazzi miei, questi siringoni non servono per farmi l'eroina, gli amici di Libero hanno abboccato o per altre cose. Infatti hanno messo il maledetto guarda. Io di tutto questo la cosa che odio di più, però, ragazzi, è clamoroso cosa. E guarda, no, sì. No, quello, però quello la realtà è... questi siringoni, lo dico molto chiaramente, servono ogni tanto, li devo buttare. No, sono dei reperti, è vero, sono dei reperti ormai zozzi, totalmente privi di qualsiasi utilità, perché mi sono serviti quest'inverno quando veniva mia figlia a casa a dormire per pulirle il naso, per pulire il naso, sai, siringhe. Che si mette l'acqua di cosa, con quelle l'acqua con cui ci si fa di eroina. Vabbè. No, ma non sono le stesse, quelle di eroina sono molto più sottili. Queste qua sono grandi, infatti, non servono né a fare il crack. Intanto abbiamo diffamato. Ma no, abbiamo diffamato che mi servono per pulire il naso a mia figlia, cazzo. E vabbè, intanto vabbè, questo poi lo dirai in sede processuale. Ma quale processuale intanto... di che? Fermo, beh, dai, intanto abbiamo sputtanato un po'. Parenzo. Sono Parenzo. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? È che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. Parenzo. È che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Luciani, ho appena iniziato a lavorare in una scuola di suore. Stamattina, giunta a destinazione con il podcast della Zanzara nelle orecchie, mi rendo conto appena entrata di canticchiare spruzzavi acqua, probabilmente brucerò all'inferno per l'eternità. Parenzo, perdonami. Naturalmente. Ho mio figlio al Politecnico, è venuto a casa, parlava fisica, chimica, io l'ho guardato e ho detto voglio vedere, voglio testare la tua preparazione, Politecnico di Torino, quarto anno, e dimmi papà, allora tu mi devi spiegare cosa sono i maiuruni, eh? Fatto lui. I maiuruni, e dove le sentite? Una grande trasmissione scientifica, di nome La Zanzara. Spiegami che cosa sono i maiuruni. Papà, mi cogli impreparato, ma non so che cosa sono i maiuruni. Ha detto allora non sei un cazzo. Ascolta La Zanzara. Aspetta un secondo. Mi può ripetere per favore chi è? A2A. Signor Giuseppe Cruciani? Sì, sono io. Ok, la sto contattando dall'A2A, il gruppo di Vince per il stacchi nuovo tutto. Piano tarifario che abbiamo riservato ai nostri già clienti. Sì, ma non è ma un lei buon sa che ore sono, scusi? Lei sa che ore sono? Io sono le 19.30, perché mi dica? Amica mia, ma perché mi contatta a quest'ora? Contattato o mi dedica 2 minuti adesso? Amica mia, ma non posso dedicarle 2 minuti. Come faccio adesso, a dedicarle 2 minuti? Innanzitutto, scusi un attimo, amica mia. Innanzitutto, sto sulla tassa del cesso in questo momento. Vabbè, questo In questo momento sono sulla tassa ma del cesso. Che ci devo sono fare? Io, ok. Mi dica, signor Giuseppe, quando lo vuole essere ricontattato? No, aspetti un attimo, io adesso qualche minuto ho, però se lei sente rumori strani, cose strane, però non è che mi può interrompere, non è che se la può prendere poi. Passami alla tua compagna. Ma formalizzare l'offerta, mi assicuro tutto. Aspetti un attimo, mi faccia pulire un attimo il culo, scusi se parlo così, mi faccia pulire un secondo, aspetti un attimo. aspetti un attimo. Aspetti, aspetti un secondo. Ah! Mamma. Ah! Ah! C'ho, scusi, è che c'ho un po' di fistole. Lei ha mai sentito parlare di fistole anali? Lavorare. Sì, lo so, amica mia, pure io sto lavorando, solo che sono veramente un paio di minuti per formalizzare l'offerta di cui ho parlato, che andrò a spiegarle nel dettaglio. Ah, oppure salutiamo. Ah, okay? C'ho le fistole. Però scusi un attimo, allora mi dica che offerta è? Adesso scusami, amico mio, ma una onesta lavoratrice. Sarà colpa mia o no? Una che questi onesta... mi chiamano alle 19:35. Ma non nessuno è tenuto a sapere che a quest'ora tu sei in onda. Quella è un'onesta lavoratrice, una signora che ti stava telefonando e già le faceva schifo l'idea di interloquire con te e tu fai quella porcheria lì. Ma quella è un'onesta lavoratrice, guarda. Ma ti pare? Ma è una cosa indegna. Pronta! Okay. Va bene ragazzi, dove andiamo? Non va bene, non ma va scusa, bene. Non va bene. La gente mi va chiama alle 19:38 in piena perché, zanzara, perché un'operatrice della 2A. Una concezione perché... tolemaica delle cose. Ma no, ma c'è scritto Giuseppe Cruciani. C'è scritto Giuseppe Cruciani. Che cosa fa questo signore? Quella cosa, fa quella il conduttore alla radio. Ma che ne sa quella dell'orario sì, in cui tu vai sì. in onda? Ma scusa, che, poi questa cosa che ti chiamano a casa per farti le promozioni, ma chi gli dà il permesso? Che questo è uno stalking, ne stanno anche parlando per risolvere il problema. Ne stanno anche parlando. Questo è un classico esempio di stalking. Cioè proprio lampante, mandato in diretta, stalking continuo. Vabbè, quello che facciamo noi lavoro, ogni sera peraltro. Però, appunto, tra d'accordo, però noi lo facciamo per mestiere. Anche loro lo fanno per mestiere. Noi lo facciamo perché lo scopo è questo. Lo scopo di questi non è fare stalking. Lo scopo di questi è fare quattrini. Non è che fanno quattrini chiamando la gente, rompendo i coglioni sul cellulare a 19:35 a un conduttore radiofonico che peraltro in quello stesso istante sta facendo una trasmissione, sì. Dunque ti becchi la messa in onda. Comunque, se mi mettete per cortesia la musica di Ruggero dei Timidi, la mia Filippina ha scritto una bellissima rivisitazione della canzone. Ma cosa? Che c'è? Sullo squilting. Aspetta, aspetta, Claudio, sulla... sta aspettando spluzzavo da un po'. Acqua e candeggina. Claudio, dimmi. Aspetto. Nel bagno dimmi. Di Cluciani. Dimmi. Oh. Claudio, dimmi, che è successo? Oh, dimmi. Giuseppe, senti. Anche a te rompono i coglioni questi però... qua. Anche a te rompono il cazzo questi qua. Delle... Oh, no, mi hai fatto divertire, guarda, mi sono schiantato dalle risate. Senti, ti ringrazio, mi hai ricordato anche perché cosa? Una delle ragioni perché ho lasciato la moglie, perché era diventata buddista. Pure, per pure. Cui... È successo anche a te. Mi rompevo i coglioni. Ma hai ragione, amico mio, vaboli. Cari buddisti, avete un altro modo di pregare? C'è un altro modo di pregare? Esiste un altro modo di pregare? Cioè, scusa, quando uno prega in chiesa, no? In chiesa no, quando uno prega nella religione cattolica, uno prega, veniamo tutti dall'altro, tranne tu. Ma io vengo da una. Ma io non ho capito perché ti dà così fastidio. Mi dà fastidio sta cantilena. Che cazzo ma guarda che sei un personaggio cosa fastidiosa, scusami. Ma tu sei fastidioso con quelle porcherie che fai. Tu sei una persona fastidiosa. Non gli ottimi buddisti, poverini, perseguitati da dai cinesi, peraltro. Ma ottimi, qualcuno ha idee che... diverse sui buddisti. Comunque, vabbè. Qualcuno Giuseppe, che sono lì tranquilli. Dimmi, Claudio, dimmi. Però ti ho chiamato per un'altra cosa. Ascolta, qui vicino a Pisa hanno arrestato, ieri hanno fermato una famiglia di Rom. Ah sì, l'ho letta questa notizia, incredibile, incredibile. Con 18 possedevano corsa, ville, terreni, auto, terreni, macchine, Ferrari. Ecco, amici allora di Parenzo, amici dire... di Parenzo, Rom, Rom no, amici di Parenzo. Questi pagano Parenzo. Questo, beh, non pagano Parenzo ancora, no, altrimenti si farebbe pagare tranquillamente per fare il portavoce della Comunità Roma, l'ha già detto. E poi ma lo sta facendo? No, ma i soldi no, gli, sta, gli lui è il i soldi da dove li prende? Si può posso, dire pagato dai Rom, posso lo dire. Pagato dai Rom, pagato dai, dai dimmi. Questo potrei considerarla una diffamazione aggravata? Vabbè, adesso no, no, no, questo non credo, Allora non ho capito, dunque hanno preso questi qua, dunque hanno arrestato questa famiglia Rom? No, perché ma sì, ma la cosa più a Pistoia, io a Pistoia è che non l'hanno, non è che hanno fatto una verifica, magari la finanza, cioè, sì. Siccome cercavano due cavalli rubati in tempi passati, sì. Erano nulla tenenti, nulla tenenti, patrimonio da 2 milioni di euro. Vabbè, sì, così, però questo che sono nulla tenenti, ci sono anche evasori italiani, perché italiani o comunque non Rom, sì. Lo potevano sapere anche da prima. Vabbè, non lo so, adesso non ho seguito bene va la vicenda. Va bene, insomma, comunque va bene così. Dai, pagato dai Rom, dai. Pagato dai Rom, ma pagato dai Rom. Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi spaventai. Non chiamando la Filippina, dov'è qua la Filippina mia? Ora lo chiamano squirting, ma i tempi non sapevo, credevo stessi male. David? Sì, no, aspetta però, perché non trovo il test di... Dalla vagina! Ed io mi preoccupai. Aspetta, aspetta, se lo faccio. Ma non va via niente, c'è glande in clostazione. Se la rimetti all'inizio l'ho trovato il testo della mia Filippina. No, lascia perdere. Spluzzavo acqua. Ti ho pensato spesso in questi anni e voglio farmi perdonare. Sì. Torneremo io e te su quella spiaggia e stavolta non scapperò. Non c'è dubbio. Lugello. Ho capito tutto. Signor Lugello. Mi ha mostrato dei filmati sull'internet che altre ragazze la fanno quella cosa lì. Vabbè. E tanta anche, tanta. David. Vai. Spruzzavo acqua e candeggina nel bagno di Cluciani. Me lo ha detto Dottore Palenzo, ma non va via niente, c'è glande in clostazione. Questo è un genio, la Filippina, ti giuro, è un genio. Ma te l'ha detto veramente la Filippina. Me l'ha mandato la Filippina di Palenzo, mi ha mandato tutto il testo. Dottore è andato a pranzo, dottore è andato a pranzo, non c'è niente di male, taltine con caviale. Ha scritto la Filippina, allora, ha scritto. Ti scegli, dottore ti è andato a pranzo, dottore è andato a pranzo. Ti scegli le Filippine qua acculturate. Niente di male, taltine col caviale. Allora ragazzi, Abemus, sì, numero del pedofilo di Firenze. Chiamiamo. Beh, no, beh, è tre ore che ci provo, Davide, non riesco a trovarlo. Ah, no, scusami. O proviamo, cioè, dai. Questo è uno scoop. Pronto? Sì, pronto? Sì? Sì, salve, buonasera. Buonasera. Fiesoli? Che la vuole? Sì, è Fiesoli? No. Sì, lei è Fiesoli? Che la vuole? Tu? No, sono Cruciani, buonasera. Mi dica. Come va? Ah, insomma. Ha sentito tutte queste polemiche? Arrivederla, eh. No, mi parli come un attimo, Fiesoli. Fiesoli. Porca puttana maledetta, dai, riprova, ragazzo, beh, dai. Pedofilo maledetto, dai. Profeta, sono Cruciani, parli un attimo. Ah, mi dica. Ecco, allora, ha sentito queste polemiche sul fatto che lei fa il chierichetto? Sì, allora io non l'abbiamo fatto il chierichetto. Beh, sì, era lì beh, in chiesa. Sì, ero in chiesa, allora? Beh, era in chiesa e stava... Tutti i giorni in chiesa. No. In chiesa e prego. No, però lei stava aiutando il parroco. Ma che aiutare il parroco? Ma dove? Io lo conosco neanche, insomma, lo saluto, arrivederla. Ho capito, stava lì e stava aiutando il parroco a fare delle cose. Certo. È stato. Ma che? Via la pazienza. Grazie. Ma io non, grazie, io non le voglio dare. Scusi un attimo, signor Fiesoli. Mi ascolti? Sì. È vero o no che lei stava aiutando il parroco mentre faceva la messa? Di messa? No, no. E allora? No. E allora quelle foto? Quelle foto che sono uscite? In quelle foto si vede lei accanto al parroco che dà una mano al parroco a dire messa. Ma che? Io porto l'elemosina sotto l'altare e vengo via. Appunto. Vabbè, aiuta, no? Ma io non ho aiutato il parroco. Capisco, ho aiutato la signora che va a chiedere l'elemosina perché lei gli si era fatto male alla gamba. Dice, vai te, per favore. Che gentile. Come la viene tutti i giorni alla messa. Allora io sono andato a fare l'elemosina, allora l'ho portata all'altare. Ma lei... Non c'era un battesimo, un battesimo, non una comunione. Però scusi, lei ogni tanto aiuta Don Emanuel, o no? No, non l'ho mai aiutato io Don Emanuel, mai nella mia vita. Dunque, lei ci sta dicendo che non collabora con Don Emanuel, con il parroco. Ma neanche per ombra, io prego, coso, e lui fa, prega, però. Ma lei da quando è che è diventato cattolico, mi scusi? Da sempre. Da sé, lei è sempre stato cattolico? Certo. No, scusa. Io con Don Emanuel non c'entro nulla, capisci? Sì, d'accordo. Lo scrivo. Ma io lo sto scrivendo. Lo diciamo. Però una cosa, possiamo. Anche lui che dice: tu vai alla messa, guarda, c'è un mio amico che mi dice: tu vai alla messa per fare il che? serve a nulla. Io ci vado tutti i giorni, o vado a Pelago o vado a Diaceto, a seconda come mi comoda a me. Però scusami, oggi c'era la messa, sì, c'era la messa. Sì. Alle 6. Però scusami un attimo. Rimane un problemino, però. Possiamo prendere questa occasione per dire: mi pento di quello che ho fatto, di tutte le cose che ho fatto. Tu hai delle condanne, amico mio? Hai delle condanne, caro Fiesoli, o no? Ah, vabbè, Giorgio, io non mi pento di nulla perché io non ho fatto niente. Io sono ancora innocente perché c'ho, c'è l'assazione. Amico mio, ma sei con, sei amico mio, ma amico, non sei che amico di me. Ma sei, è stato, sei stato condannato però per pedofilia. Va bene. Tu sei riconosciuto, aspetta, riconosciuto come, che non arriva la Cassazione, io sono ancora innocente. Ma tu hai abusato di bambini. Mamma hai abusato mia. Di bambini. Ma che bambini? Hai abusato bambini, di bambini, prima condanna nell'85, poi perché non erano bambini? Ma sta zitto. Non erano bambini o no? Quanti erano anni bambini avevano? Ma che Vai. Ciao. Quanti anni avevano? Scusa. Ti voglio bene, guarda. No, io non ti voglio niente. Io, se mi danno un giorno di galera, io voglio scoprire la fame e voglio morire. Ecco che tu devi scrivere. Ma amico mio, tu sei un pedofilo, però. Ma tu va a far culo. Ma sei un pedofilo riconosciuto, con una condanna passata in giudicato e un'altra condanna in appello. Una condanna dell'85, un'altra condanna passata in appello per maltrattamento, per abusi sessuali. Sto dicendo le sentenze. Sei bravo, scrivi il più male possibile di me. Non sto dicendo nulla, sto dicendo che secondo la giustizia sei un pedofilo. Ma sta zitto. Non c'è, perché i giudici per ora è così. È con l'Anna Maria. Chi è sta Anna Maria? Chi è sta gente? Tu non hai mai toccato un bambino in vita tua? Ci può abbassare due volte il telefono. Dai. No, qualcosa l'ha detta, Sì, come? Nega tutto, dice che si ammazza se c'è la Cassazione. Fiesoli, oh, calma, stavolta stiamo calmi, cerchiamo di stare calmi, Fiesoli. Mi hai mandato a fare in culo, questo non va bene. Fiesoli? Fiesolino? Lasci su. Tommaso, provincia di Imperia, sta testa di cazzo. Sta avvenendo una cosa molto curiosa, cioè la signora Francesca Immacolata Ciauchi, sì, dialoga la famosa con, papessa, sì, dialoga con la Filippina di Parenzo su Twitter. La finta Filippina di Parenzo. Sì, beh, certo. Ma la cosa incredibile, perché lei dice: scusa Parenzo, facciamola sposare con la tata di mio figlio. Ma questo è buono. E la Filippina di Parenzo risponde: interessantissimo, manda le foto prima però. E lei rispose: prima di mandare foto, manda tu il 740. E lui: io tutto in regola, garantisce dottore. Ah, beh, che surreale proprio. And if it's over today, you'll never get that thing you had to get. Tommaso, dimmi. Sì, pronto, ciao, io volevo solo, a proposito dei pistoleri di noi altri, no? Volevo dire che secondo me non c'è nessuna ragione al mondo per uccidere un altro essere umano. Cioè, non bisogna uccidere, questo è un principio di civiltà. Ma che c'entra, questo è normale. Ma cosa vuol dire? C'è anche la legittima difesa, c'è anche il diritto di proteggere non, le proprie. Non ci credo. Non cosa bisogna non credi? Uccidere, significa non credere. Non bisogna uccidere gli altri esseri ma questo umani. Nessuno. Mai. Ma che vuol dire mai? Ma non c'entra niente mai. Se uno sta stuprando tua figlia, che fai? Lo lasci lì libero di stuprare tua figlia? Che fai? Gli dici scusi? Non lo uccido. Ah, non lo uccidi. C'è la giustizia. Vabbè, sei un coglione. Se davanti no, a te sei c'è. Tu un coglione. Se davanti tu a te. Isterica, come tutte le altre checche isteriche, sì, alla Salvini. Ma checca, sai, checca non mi. che reagite al cambiamento del mondo con queste sfogate istericamente. Guarda, amico mio, qui non c'è nessuno sfogo. La realtà è molto semplice, è quella che hai detto tu prima. Se qualcuno davanti a me sta stuprando mia moglie, io non l'ammazzo. Se ti piace così, se la vita ti piace fare stuprare tua moglie, va benissimo. Se tua moglie sta per essere stuprata, è un caso limite, ovviamente, no? Se tua moglie viene stuprata davanti a te, io non uccido. No, bravo. Io non vai avanti uccido. Così, ma a me che cazzo me ne frega se io ammazzo. Tu capito, io ammazzo se vedo adesso, una persona a me cara è che ovvio, viene faresti qualunque cosa, ma che c'entra? Ma questo dai, sta dicendo che non ammazzo la discussione. Per fermarlo, ma non ucciderlo. Ma che vuol dire? Noi, ma che vuol dire? Non è che vai là e gli dai una. Noi paghiamo le tasse perché lo Stato si occupi della nostra sicurezza. Ma veramente anch'io pago le tasse, amico mio. Esatto, tutti pagano le tasse perché lo Stato si occupi della nostra sicurezza. Ma questo facciamo, è il suo dovere. Mi risulta che siano dei procedimenti aperti. Non ci può essere la polizia, non ci può essere la polizia in ogni angolo di strada né in ogni casa. Se un pedofilo entra dentro un pedofilo, un stupratore, se entra in casa un rapinatore che vuole anche, come è successo, stuprare tua moglie, ma anche stuprare te, vuole stuprare Tommaso, vuole inchiappettare, che fai tu? Non ti ribelli, non lo ammazzi, che fai? Gli dai uno schiaffettino, che fai? Dimmi, Tommaso. Ovvio dimmi. Che reagisco e mi affido alla giustizia. Io non ma la giustizia nessuno. Non c'è in quel momento. Non c'è nessuno. Ci dopo, sei tu. Ci sarà per i miei figli, i nipoti. Dobbiamo pensare allo sviluppo della civiltà. La civiltà. Buona, stai lì con tua moglie che ti stupra alla civiltà. Ma è sì, io non. Certo, bisogna mettere un circolo virtuoso di miglioramento. Mica scaricare. Non bisogna uccidere. Ma tu puoi fare quello che. Ma tu puoi fare quello che ti pare. Se ti piace no, così. Perché dopo se ti piace. Pistola a te, magari un domani ti saltano, che cazzo ne so, ti mette a drogarti o ti salta la testa e va in giro con la pistola, un coglione come te o tanti altri. Coglione sarai tu. Io non voglio che vada in giro gente della mia comunità, nella mia nazione con le pistole, incazzati, che un giorno o l'altro gli gira il cervello e si mettono a sparare, c'ho paura. Ma hai paura e te la tieni la paura, amico mio, te la tieni? No, per perché... fortuna si va verso un'Italia sempre più armata, caro Parenzo. Ma che sei un'Italia sempre ma più armata. Ma sei il Trump italiano? Assolutamente no, no, assolutamente no, si va verso un'Italia sempre più armata, dove la gente... Data l'impossibilità della polizia di difendere ogni angolo di strada, può tranquillamente, se vuole, sparare. Ecco. E non essere accusata di. Se qualcuno entra dentro casa tua, ovviamente, no? È già così. Senza essere accusata di. Omicidio. È già così. Passare guai. Gli avvocati. Così. Pagare quattrini. Fermo lì. Buonasera, non metti mano alle pistole, vero? Buonasera, amico Rom. Sono Parenzo. Per lasciarti andare. Dei centri sociali, bruciarli tutti col napalm. Suona una fisarmonica col napalm. Fiamme nel campo rom. Napalm. Tua madre lo diceva, non andare su YouPorn. Napalm. La zanzara. Brucia, ma niente fosse pure ricchione. Ciao Cruciani, ieri vado al bar dove c'è una barista strafiga, mi avvicino e le chiedo, mi fai uno squirting per favore? Lei mi guarda, si avvicina, sorride e mi dice, amico mio, sei al top. Ciao Cruciani, ciao Ciucciacazzi. Venerdì pomeriggio in azienda, visita di alcuni clienti importanti. Mi chiamano in sala riunioni per consegnare i documenti, entro, faccio la mia consegna, lascio una loffetta per temperare l'ambiente e me ne vado. Siamo a top. And the naked thrills of flesh and skin will tease me through the night. Allora, Isaac, provincia di Bergamo. Comunque, ragazzi, la cosa incredibile della vicenda del pedofilo lì, primo, secondo me, è ancora in libertà. È vero, per carità, sì, la giustizia, certo, italiana, 15 anni, ha preso in appello nel 2016. Vive ancora lì al Forteto, credo. No, che non lo so, no, che vive in un piccolo paese, in un piccolo paese del Mugello, dell'editore, certo, del di Firenze. Mugello, sì, sì. La cosa pazzesca è che la Chiesa lo accolga, a prescindere dal fatto che abbia fatto il chierichetto o meno, cosa ha fatto. La Chiesa lo accolga come se nulla fosse, perché comunque la Chiesa, in Chiesa entra un sacco di bambini, entra un sacco di minori, eccetera, eccetera. Questo ha continuato per un sacco di anni a fare impunito, a fare reati, e ancora una volta la Chiesa, che in questo caso non c'entra niente perché non è un prete, continua a non capire. Un anno fa il vescovo gli hanno detto che questo bazzicava in chiesa e lui ha detto: beh, accogliamolo come uno qualunque. Non è uno qualunque, non è uno qualunque, non è uno qualunque. Poi, per carità, se non è condannato, se non è i ceppi, non è che ce lo possiamo, beh, mettere, certo, noi, no? Certo. Che dobbiamo fare? Isaac. Pronto? Ciao, sì. Lucia. Dimmi, Isaac. Ascolta, volevo rispondere un attimino all'ascoltatore, quello di prima, che diceva: non voglio le armi. Probabilmente quel testa di cazzo lì sarà un vegano. Ma no, che c'entrano i vegani adesso? Non credo. Che c'entrano i vegani? È il tipico dei buonisti, fantastici del cazzo. Che magari non hanno famiglia, no? No, non ma hanno che bambini. C'entrano i vegani adesso? Cioè, non hanno bambini, la questione è molto semplice. Io sono oltre Salvini, oltre la legge. Io voglio la possibilità che dentro casa propria, all'interno di una proprietà, si possa proteggere i propri cari e i familiari in tutti i modi possibili. È già così. Non è così, perché altrimenti non ci sarebbe bisogno di fare questa legge. Altra cosa che voglio dire, questa buffonata la legge incredibile aggiunge il fatto che se tu stai inseguendo un ladro mentre ma l'hanno scappa rinnegata di oggi notte, l'hanno rinnegata la Renzi legge, hanno approvato una legge dopo tanti anni da oggi. L'hanno rinnegata, infatti, l'hanno rinnegata la perché sono dei cialtroni. Allora, c'è una cosa buona in quella legge, allora, che lo Stato pagherà le spese legali a chi sarà assolto, ma e non mi va benissimo, ma l'hanno rinnegata, è l'aspetto più buono perché avevano messo la notte. Poi la sono follia è dai, che se tu spari a uno che esce da casa, la follia è che no, anche questo non è più considerato nulla, quindi Parenzo, va benissimo. Parenzo, a te vorrei darti un consiglio, perché io ho chiamato solo per questo consiglio. Sì, qua. Sentiamo. Tu dovresti andare su YouTube, no, sì, e guardare cosa combinano in, sì, Burma quei cazzo di... Ma che c'è? Di chi? Aspetta, ah, di buddisti, dici, buddisti. Bravi, anche con i buddisti ce l'avete adesso. Pure con i buddisti ce l'avete. Adesso lo andiamo a vedere. Ciao, siete, Isaac, siete curiosi, ciao, siete curiosi, ciao, siete curiosi. No, lui vuole dire che i buddisti non sono poi così pacifici. Ma in qualche dai, paese, diciamo, in qualche paese sono anche violenti. Ma è vero, per carità. È vero, è assolutamente vero. Allora, grande ritorno alla Zanzara. Maurizio Gasparri, buonasera. Eccolo. Buonasera, che dice? Ieri dicevamo, come diceva quello. Sì, dove, sì, eravamo, sì, dove eravamo? Dove eravamo rimasti? Lasciamo perdere, dove eravamo rimasti. Cerchiamo di fare pace, che in fondo. Ma sì, sì, sì. No, sì. Io poi di Cruciani sono uno stimatore, di Palenzo un po' meno, ma di Cruciani. Ottimo. Vabbè, ma si può litigare. Se no anche, ci roviniamo la si reputazione. Si può litigare, ma non c'è problema. Si litiga, è normale che si litighi. Sì. Ha scritto una cosa terribile, vabbè, Gasparri, ieri. No, che ho scritto. Che una ho scritto. Cosa su Twitter, terribile. Una cioè, cosa pazzesca. Contro l'incontro tra il premier Gentiloni e l'ottimo filantropo, cioè lui ha detto: noi incontriamo Soros, noi incontriamo Zuccaro e lui, sì, incontra Gentile, lui incontra Soros. Dimmi, sì, con chi vai e ti dirò chi, sì, sei. Come fosse un antico detto popolare, come fosse un criminale Soros, quando è uno dei più grandi filantropi al mondo e dovresti baciargli la pantofola, visto che ha finanziato ha fatto più Soros di Gasparri per combattere il comunismo, perché Soros finanziò Solidarnosc, cioè Lech Walesa, era... può darsi che abbia fatto qualcosa di buono. Anche il Papa Wojtyła sostenne Solidarnosc con la sua, ecco, preghiera, Soros con la sua ha finanziato presenza. E tu invece, dicendo che è come fosse il grande speculatore, alimenti. Guardi, anche il... Calvi l'aveva finanziato, non è che questo fa di Calvi una brava persona, si ricorda il banchiere Calvi? Come no? Speso. Ha finanziato quello Mandela, è... Nelson Mandela ha finanziato. Insomma, allora, ragazzi, lavatevi la bocca quando parlate del grande Soros. Soros a me non è simpatico, mi pare un personaggio che si impiccia degli affari del pianeta credendosi... Ma... un padrone. Io non sono molto per la dietrologia che c'è la Spectre meno tipo male, 007, però meno questo male è uno che interferisce, sì, finanzia interferisce le campagne per la legalizzazione della droga. Benissimo. E quindi se andrebbe arrestato solo per questo. Arrestato Soros. Incredibile. Chiede l'arresto di Soros. Hanno arrestato gente che ha fatto molto meno danni di Soros. Insomma. Tra l'altro, scusa, tra l'altro, Soros non è manco, cioè, non è manco, adesso... non è manco un paraculo, perché in un'intervista, credo oggi, a due giornali italiani, sì, ha detto di essere orgoglioso di aver fatto crollare, fatto di aver quasi portato alla bancarotta l'Italia. No, ha fatto il suo lavoro. Parenzo, ma lei c'ha la doppia cittadinanza o anche cittadino italiano? No, cioè, no, sono cittadino italiano. Un po' la dignità dell'Italia. Ha detto però un'altra cosa, ha detto contro il nostro paese. Io ho fatto le cose a norma di legge, poi ci pensano i politici a tassare le transazioni finanziarie. Quanti strozzini hanno strangolato famiglie, ma pensi, strozzini. Siete contro la finanza? Cioè adesso apprendiamo che Forza Italia, quel che ne resta, è contro la finanza internazionale. Benissimo, è una notizia questa. È una notizia. Contro la speculazione. Soros ha speculato contro l'Italia. Ma chi ha speculato? Mica la brutta parola, pericolosa. Ha speculato, cioè, finanzia pericolosa. Campagne sbagliate, finanzia chi porta clandestini in Italia, che è incredibile. Finanzia campagna per legalizzare la droga. Io sono orgoglioso di non essere Soros. Se fossi Soros passerei la vita a sputarmi in faccia davanti allo specchio. Cioè lei sta insultando uno dei più grandi filantropi italiani. Un ex ungherese americano. Che ha chiuso quella università. Bravo. Ben liberale. Ben liberale del cavolo che sei. Ben liberale del cavolo. Ma come? Ma non sei liberale? Io sono contro la droga, sono cioè apprendiamo oggi Gasparri, vedo che gli torna fuori l'anima nera, gli torna l'anima nera Gasparri, contro la finanza internazionale. No, io sono che c'è la finanza che non specula, quella che specula va regolata. Scusa un attimo, adesso mettiamo ordine in una situazione. Il signor Soros è andato da Gentiloni. È giusto o no che Gentiloni ci spieghi perché ha ricevuto un finanziamento? Ma non è Badalamenti, non è Totorina, hai capito? Di Badalamenti. Ma tu ti rendi conto? Ma ti rendi conto che stiamo sentendo o no? Buscetta si è pentito a un certo punto. Ma si deve pentire di cosa? Che è un uomo che ha subito la dittatura comunista, ha liberato l'ex blocco sovietico finanziandolo. Guarda, è incredibile. È uno che ha fatti i cazzi suoi, dai, è uno che ha fatti i cazzi suoi. Siete incredibili. Un esponente di spicco di Forza Italia, che secondo me dovrebbe fare uno dei remaggi, uno dei remaggi del presepe vivente al Vaticano, anziché fare politica. Berlusconi, che è molto liberale, ha detto che ad esempio la Deutsche Bank immise sui mercati quantità enormi di titoli italiani per la fase del 2011 che determinarono la salita dello spread. Quella è speculazione, non è finanza, non è liberismo. Vabbè, incredibile. Quella è speculazione, se lo ricorda. Incredibile. Scusa, però un uomo come Soros è uno che ha sempre fatto i cazzi suoi. Si può dire che ha sempre fatto i cazzi suoi. Ha fatto il suo lavoro nell'onestà. Ha fatto il suo lavoro finanziario. Io non so se ha fatto nell'onestà o no. Non si può dire. A Parenzo piace Soros. Ha fatto lo dice che vorrebbe mi Soros, piace capo, Soros. Di, capo dell'Italia vorrebbe. Certo che mi piace perché ha contribuito anche alla... le ragazze che volevano sposare i mafiosi in carcere. Ma pensa, sta dicendo delle cose agghiaccianti della Camorra, di un cittadino onesto che ha vissuto solo del suo lavoro. Sì, ma lei, lei non sarebbe in grado di fare neanche un euro come l'ha fatto Soros. Non sarebbe in grado di fare nulla delle grandezze di Soros. No, ha detto che ha alimentato processi speculativi a danno. Allora, ma non è un crimine! Adesso scopriamo che per Forza Italia la speculazione, fare il finanziere è un crimine. Mettere in ginocchio i paesi per intenti speculativi. Finanziare il trasporto di clandestini. Ma guarda che è incredibile. È un reato. Ma non ha finanziare in carcere. Io spero che Soros quereli Gasparri, che non sa neanche chi che è. Cosa? Perché se al mio amico Soros si dicono do you know Gasparri? Gasparri? I don't know who is Gasparri. What is Gasparri? It's something to eat, Gasparri? L'altra cosa incredibile. Ma che gliene frega Gasparri di sapere se Soros e viceversa a Soros. Ma Soros dirà Gasparri, ma chi è? È un remaggio probabilmente. Ma è uno dei tre remaggi. Baldassarre, Gasparri e un altro. Come Soros conosca solo Parenzo e pochi altri grandi d'Italia. Dirà che è un remaggio. Allora, dirà, comunque ce lo può dire Gentiloni comunque, perché delle cose ha incontrato Soros. Gentiloni, no, non lo deve dire a te. Signore. Io oggi ho letto che dovrebbe essere uno di quelli che decide a chi va l'Italia. L'Italia, sì, mettere soldi. Io forse voglio sapere in mano a chi va l'Italia. E ringrazialo invece. Io non ringrazio Soros. Ringrazialo. Soros in un mondo normale sarebbe... Ringrazia che i privati si comprano all'Italia, che ci hanno rimesso dei soldi. Ringrazia con le porcherie che avete fatto fatto voi con Alitalia quando era dello Stato? Allora, le porcherie che il pubblico... No, avete fatto delle porcherie. Porcherie con Alitalia quando era in mano pubblica. Ma che sono? L'Alitalia in mano pubblica l'avete fatta fallire voi, non i privati. Vergognatevi. Per incapacità di... No, Gasparri, guardi. Le porcherie le avete fatte voi quando avete gestito Alitalia. Non i privati. Non i privati. Quello fu un errore, Gaspari, quello fu un errore. Chiamare i privati fu un errore. No, ma lo Stato l'ha fatta fallire. Sì, ma però devi Allora, noi abbiamo, quando eravamo al governo nella fase 2008, sì, bravi, di fronte all'ennesima crisi dell'Alitalia, Berlusconi chiamò il meglio dell'impresa e delle banche italiane, che hanno sbagliato e fallito, proprio perché i privati non sempre sono bravi. Era un errore già fallita. Era già fallita l'Italia. Era già fallita. Ringraziate gli arabi. Lasciamo l'Italia. No, ma Gaspari lo deve sapere. Ringraziate gli arabi che se la sono tarantolata. Ma l'hai già detto 40 volte, l'hai detto, basta. Ringraziate gli arabi che hanno preso una roba fallita. Ringraziateli. Non insulterò Parenzo. Ecco, allora io dico una cosa. No, dico una cosa. Fategli oggi una perizia, oggi però, però un magistrato che tu ami molto, che si chiama Woodcock, ha scritto, ha scritto che vuole la legalizzazione delle droghe leggere. Una cosa giusta la dice. Allora io ho scritto domani sul quotidiano Il Tempo un breve articolo che mi hanno chiesto da comprare, e ho scritto che se Woodcock, per la tesi della legalizzazione, conferma che ho ragione io, perché se uno sta dalla parte di Woodcock, quella è la parte sbagliata. Vabbè, quello io, che c'entra così di principio in Italia, sì, pazzesco. È come uno che guarda, sai, gli antichi guardavano quanti uccelli passavano, se da destra o da sinistra, gli aurustici, gli aurustici, no? Se il volo dei stormi arrivava da una parte o dall'altra. Uno per sapere qual è la parte sbagliata, da che parte sta Woodcock, e allora uno va dall'altra. Se lei si ricorda, c'è una famosa frase che lo sia di Brecht: mi sedetti dalla parte del torto perché tutte le altre erano occupate. La parte del torto è quella dove sta Woodcock. Lei c'ha un riferimento, no? Dove c'è Woodcock, quella è la parte sbagliata, lei vada dall'altra. Però voglio dire, ho capito, questo di principio è così, perché l'ha detto Woodcock. Però che ha fatto? Ha fumato Woodcock per dire, per scrivere quelle cose, secondo te? Che ha è fatto? Disinformato, vada a scuola da Gratteri, procuratore di Catanzaro, che ha spiegato come la legalizzazione non scalfirebbe di nulla gli interessi della mafia, perché la gran parte dei consumatori sono minorenni e quindi non potrebbero accedere al mercato legale. Hai visto che è successo con quella manifestazione a Torino, dove hanno messo quei due poliziotti lì, Mari? E quella è l'Italia che Buduk piace, quelli che vogliono la legalizzazione e che mettono i manichini dei poliziotti da investire. Ma quelli erano due coglioni. Che c'entra quello con Buduk? Io vivo per essere dalla parte della ragione e della giustizia, cioè dalla parte diversa da quella di Woodcock. Vabbè, Woodcock è un magistrato, che facciamo? Che dovrebbe... Ho capito, è stata la parte sbagliata, che posso fare? Ma dovrebbe... è un riferimento di vita. C'è un magistrato che dice che, un magistrato che dice che bisogna legalizzare la droga, secondo te non fare male. Io sto con Borsellino e con Gratteri. Ma... lei si fiderebbe più di Borsellino e Gratteri? Ma io lo sai come la penso su questa cosa qua, lo sai come la penso? Lo sai come la penso? Ma tu la pensi per la tua posizione autonoma, per me avere un riferimento di giustizia è che se uno sta dalla parte diversa di Woodcock, che è la parte giusta. Perché guardi, Gratteri, se ci facciamo seri, ha spiegato, uno che ha combattuto il narcotraffico, come la legalizzazione non scalfirebbe gli interessi delle mafie. Vabbè, ma quella è la posizione di Gratteri, legittima, per carità. È giusto, non è legittima, è giusta. Vabbè, è giusta, non è giusto o sbagliato. Non è giusto o sbagliato. Oggi Woodcock oggi ha detto che le forze che vengono impiegate per combattere il traffico illegale di droga dovrebbero essere usate per lo smercio legale. Non ho capito che vuol dire. Facciamo i chioschi con i poliziotti che vendono bibite con estratti di cannabis. Non lo so, chiederei a Woodcock spiegazioni, ma siccome Woodcock non è un mio interlocutore, io ringrazio Dio di non essere Soros e di non essere Woodcock. E vabbè, che anche loro uguale. Ciao Maurizio, a presto. Ciao. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi! La zanzara. Passo tutto il weekend a sentire i podcast della zanzara e godo. Sei partita per un grande sogno, diventare designer a New York. È stupendo. Io son rimasto qui nella provincia, che stupidi capricci non ne ho. A giugno m'hai detto ritorno a settembre, ma era giugno di 2 anni fa. Ruggero, vai. Non m'hai più chiamato, hai forse vergogna di ammettere che hai fallito? Non importa, dai, sciocchina. Torna Udine, torna Udine. Perdonerò la tua ingenuità. È stupenda questa qua, non è di sesso, ma è stupenda. Udine, torna Udine. La tua vita è fatta di semplicità. Torna Udine, torna Udine. Un impiego lo si trova se lo vuoi. Torna Udine, torna Udine. Il bar è sempre qui che aspetta noi. Tu direi che c'entra, ma è stupendo, non lo so, la trovo meravigliosa. Sempre gladito, signor Lugello dei timidi di Casa Palenzo. Sempre gladito, basta che non parla di glande. Ma quello parla del sesso ogni calzone, tranne questa. Gladito, no, quando è a tavola, sempre con dotole, molto educato, non parla porcherie. Poi d'improvviso, il tuo squillo inatteso. I'm rich and I love another man. Non ho ben capito, ma il cuore ha tradotto che avessi bisogno di me. Così questa notte prendo l'ultimo treno che da Udine mi porterà a New York. Ma perché Udine? Perché è di Udine lui? Sì, ho capito, però non è il centro del mondo. Centrale, che c'entra? Solo per cantarti. Ma faccio la cazzo su Padova allora. Cioè, torna Udine, Padova, torna Padova. Cosa New York che Udine non ha. Beh, insomma, adesso non esageriamo. Torna Udine, torna Udine. La trovo meravigliosa. Oppure quella città del Trentino meravigliosa di cui abbiamo parlato tempo fa. È surreale. Torna Udine, torna Udine. Chi è quest'uomo qui in mezzo a noi? Torna Udine, torna Udine. Che poi lei si mette, si è messa con un altro, no? Lei nel frattempo. Udine, torna Udine. Teresio, provincia di Cremona, vai. Dimmi. Ciao Lucrociani. Dimmi. Dunque, volevo dirti che io qualche volta ascolto la Zanzara. Sì. La maggior parte delle volte non sono d'accordo con il linguaggio scurrile che usi. Però sì, il mio motivo, no, della chiamata, sì, non è tanto questo. Potrei anche rispondere, potrei anche rispondere sti cazzi. Sì. Ecco, sì. No, a parte questo, no, volevo sapere come mai ti sei sobbarcato l'onere, sì, di portare Parenzo. Sì. Perché sì, tra l'altro l'onere di portare Parenzo. Parenzo abbia trovato una valvola di scarico. Certo. Cioè, tutti quelli che sfondo, si lamentano per qualche cosa, naturalmente se lo pigliano poi, sì, con Parenzo. Certo. E tu probabilmente rimani fuori. Per esempio, l'altra sera alla gabbia, non Teresio, so se tu l'abbia visto. Fa un ragionamento complesso, Teresio. Ho visto qualcosa. Sì, mi ho detesta, visto, ma mi segue come un'ombra, signor Teresio. Ottimo. Prego, non Teresio, è che ti spii, ci mancherebbe, sì, altro. Ci mancherebbe. Non sei del tutto antipatico. Sì. Ma no, quando a un certo, sì, punto vuoi, sì, per forza aver ragione su tutti, sì, gli argomenti che, sì, vengono trattati, sì, sì, che fai il tuttologo, il, sì, sapientino, Teresio, Teresio, allora, da Cremona, a quel punto io voglio francamente neanche da Cremona, Teresio dalla provincia di Cremona, manco da Cremona. Vabbè, insomma, in finale, in conclusione. Dai, Teresio, noioso, che stracazzo vuoi? Cioè, esatto, ma questa è la, la domanda conclusiva, anche riassuntiva del tutto. Dopo che questa vuoi, tua analisi, se vogliamo, ma che stracazzo analisi vuoi da noi alle 20:23? Dobbiamo dare un certo ritmo a questa trasmissione, dobbiamo dare anche una certa velocità. Tu stai chiamando dalla provincia di Cremona dicendo perché ti sei preso Parenzo. Ecco. È ormai storia, che fa parte anche piccola parte della storia della radio. Ma per la cui storia, bisogna sapere qual è il motivo. Perché il motivo, a un certo punto, vale, adesso questo qua lo ammazzo, ti giuro. Soros, no, è stato Soros. L'altra sera quando ti dicevo appunto, sì, seguivo la gabbia di Paragone, sì, guardavo contemporaneamente i tweet e, sì, non c'è stato un commento, certo, favorevole a Paragone. Non ce n'era neanche uno, certo. Voglio dire, non è soltanto, diciamo che il pubblico mia, della gabbia non è un pubblico qualcosa che, sì, non va perché lui. Ma non va, miserabili fioccano nella rete, miserabili fioccano nella rete. Teresio, io voglio farti però fare il filippino, e forse è l'unica parte che riesci bene. Teresio. Signor Telesio, Telesio. Signor Telesio, a lei hanno mai squirtato in faccia? Ecco, la domanda fondamentale. Eh? Teresa, ti hanno mai squirtato? Ecco, ti hanno mai squirtato in faccia o no? Alla fine di tutto faccia, è fondamentale per capire se sei uno. Sì, come... mi è capitato, se ti vuoi proprio saperlo, mi è capitato. Ma figurati, un applauso a Teresa. Ma figurati se gli è capitato a questo qua. Ma un applauso a Teresa. Ma questo qua non ha neanche mai visto l'azienda. Parenzo, ma è figurati, capitato, ma questo qua non ha neanche mai visto l'azienda. Ma figurati, dai. Ma sì, ma ecco, appunto, vedi tu, vuoi fare il sapientino, il tutologo. Ma cosa vuoi aver visto? No, però adesso mi sta più simpatico, zio Teresa. Sei entrato in una donna e quando sei entrato nella Statua della Libertà, come diceva Woody Allen, dai. Ecco, tu probabilmente a San Carlo di Arona, perché proprio anche le donne probabilmente non lo so. Ma tante volte quando penso, appunto, beh, lasciamo perdere, non andiamo nel personale. No, andiamo, bisogna sempre andare nel personale, questo è un errore che fai. No, mi spiace, sinceramente no. Io non vuoi andare nel personale, ma hai appena detto che ti hanno squirtato una volta in faccia. Mi hai appena detto che ti hanno squirtato in faccia, amico mio, come fai a dire non vado nel personale? Mi hai appena detto sì, è vero. Ma tu mi hai fatto una domanda e cosa c'entro, scusami, eh? Ma io non vado a insinuare quello che può essere in Parenzo. Tu mi hai fatto una domanda e io ho risposto alla domanda che tu mi hai fatto. Mi sembra abbastanza normale, no? Bravo, com'è stato quel momento là? Te lo ricordi anche? Io sì, è ripetibilissimo comunque. No, ma com'è stato? Bello, un bel momento. Ma se ti interessa, io ho 82 anni. Ma Marco, sei numero uno, sei a 82 anni. Non lo so. Parli così, tranquillo. Sei ancora trombi a 82 anni. Ma 30 anni fa l'ultima volta, ancora trombi o no? 82? Ha ragione Parenzo, ha ragione. 30-40 anni fa. Cioè, ti sei fermato a 82? Beh, adesso mi spero di non fermarmi a 82, perché... No, ma aspetti, non fermarti. Se arrivo un po' più avanti diventano anche 83, perché... No, non ti sto augurando nulla, per carità, ti ho detto, aspetta, sto dicendo... Io spero di andare avanti ancora un po'. No, ma ti sei fermato me lo permette, sessualmente, ti sei fermato? Eh sì, volente o nolente proverai anche tu, assolutamente, per carità, è una maniera più assoluta. No, assolutamente, fermarti, no, perché a 82 anni non so quelli che hanno la mia età se sono fermi o se continuano. No, guarda, ci sono molti fermi, però io conosco delle persone che a 80 anni ancora scopano. Che quello sì, sicuramente. Ti abbraccio, ciao Teresio, ciao, ti abbraccio. Stammi bene, ciao. Intanto continua ad impazzare Massimo Carminati. Rintanato nella sua spelonca, chiama Napoli. Carminati, no. Chiama Napoli. Mamma, questo è il titolo. Aiuto, Carminati, aiuto, aiuto. Chiama Napoli. Pronto? Io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome. Massimo Carminati, segnatelo, capito? Segnatelo. Perché chi è? Massimo Carminati, segnatelo, così vai su internet e vedi chi sono io. E quindi? Segnatelo sto nome, ascolta a me, così no, vai su internet e senti chi cazzo sono io. Ma che già signora? Massimo Carminati, segnatelo, capito? Segnatelo. Se mi venite a fare l'impianto, bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? Mannaggia, capito. Se non mi attaccate al telefono entro domani, a me non mi frega un cazzo, vado su spazio, poi venga a cerca a te. Mi fai un buchino, mi la cerca a me. Io sono quello che abita là. Ma fanno un mio buchino. No, non è stato ben accolto a Napoli, no, però, signor Carminati. No, non è no. Stato accolto bene. Pino, provincia di Piacenza, dai. Pino. Pino, Claudio, provincia di Roma, dai. Dimmi, sto ancora a ride per Carminati. Allora, vai, vi voglio raccontare una cosa che ho visto mercoledì mattina in una traversa di Via Tuscolana, però non la voglio commentare, vorrei un parere tuo e di Davide. Allora, arrivo con la moto, mi fermo, metto la moto sul marciapiede, mi tolgo il casco, aspetto un amico. Sì. Mi passano davanti due bambini, femminuccia circa 12 anni, maschietto circa 9 anni, sì, con una pistola palesemente finta in mano, rom, sì, si vedeva che erano rom, entrano nell'ottico davanti proprio dove avevo fermato la moto e, hanno intimato alla persona mani in alto. Sì. E la persona non ha risposto, è uscita, sono entrati alla trattoria, hanno fatto la stessa cosa. Poi sono andati al bar, arrivati al bar ho fatto anche una fotografia perché racconti questa cosa. Alla fine che è successo? Niente, nessuno ci ha creduto, ovviamente. No, ma la gente non gli rispondeva, la gente gli guardava, allora, non diceva la cosa è molto semplice, in questi casi se fossero diciamo bambini non appartenenti ad etnia rom sarebbero stati tolti ai genitori e i genitori probabilmente accusati di reati. La storia è finta, ma anche se è finta uguale, non cambia niente. Nel caso dei rom invece accade una cosa molto semplice, che non vengono tolti ai genitori. Cioè, in questo caso i bambini andrebbero tolti ai genitori, perché i bambini rom che vanno in giro, probabilmente minori, no? Immagino, che con pistole finte in mano a simulare rapine, vanno tolti ai genitori, molto semplice. Davide, che ne pensa? Ma io penso che uguale. Uguale, cioè mica è dalla parte dei delinquenti. Cioè, non sono mai stato dalla parte dei delinquenti. Vabbè, fermi ragazzi, torniamo tra un attimo. La mia specialità è lo squirting, amore. Beh, amica mia, Parenzo! Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi preoccupai. Bruciare, cos'è lo squirt? Mi visita un dottore, mi disse, non è niente, è nettare d'amore. No, io faccio altre cose, io cago addosso ai clienti. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Ciao Parenzo, non saluto quello stronzo l'altro perché non voglio essere salutato, quindi mandiamolo a fare in culo. Parenzo, la signora Rosina ti fa il culo. Luciani, ma come cazzo è possibile che c'è ancora gente che chiama con l'auricolare e il viva voce? Dopo 6.000 puntate di Zanzara non hanno ancora capito un cazzo. Ma manda tutti a fanculo, manda tutti a fanculo! Allora ti segnalo, Parenzo, non so se ti fidi della Guardia Costiera Libica, non credo, No, non credo. Però la Guardia Costiera Libica. La Guardia Costiera Italiana, sì, quella che ad esempio lavora a Lampedusa. Sì. E dopo la strage del 3 ottobre 2013, dove sono morti, 368 persone. Ma chi se ne frega? Da quello è cambiato tutto. E oggi, alle 20.36, si può dire, qualche stronzo pensa di mettere in discussione la vicenda delle... Perché oggi si parla di che cosa? Senti, però aspetta. Oggi viene non ci messo fare... in discussione. Ma vuoi dire una cosa chiara? Una cosa chiara che non si capisce un cazzo. La canea che state sviluppando oggi è solo contro il soccorso in mare. Figurati. Lui viene messo in discussione questo. Quante miglia dalla costa, minchia dalla costa, lì chi l'ha fatta? Non vogliamo. Si parla di evitare, sì. 368 morti che il 3 ottobre 2013 sono lì. Secondo la Guardia Costiera Libica, le organizzazioni non governative fanno l'autorevolezza di Donato da Varese. La Guardia Costiera Libica vale quanto il parere di Donato da Varese. Le organizzazioni non governative fanno credere ai migranti in Libia che verranno comunque soccorsi e questo li spinge a imbarcarsi aggravando la crisi. Ah, quello lo spinge. E le navi delle ONG hanno più volte violato le acque territoriali libiche senza avvertire le autorità competenti. Questo salvano vite umane. Non lo so. Sono connivente dell'ammiraglio della Guardia Costiera di Lampedusa che ha udito in commissione, ha detto salvare le vite in mare è la priorità. Questo è il punto. Fine della discussione. Allora, 20 e 38, la persona, andamosene a casa. Sì, che la persona che ha fatto scoppiare tutto il casino. Amiche, amici, cose. La persona che ha fatto scoppiare tutto il casino, come sai bene, è un ragazzo di 22-23 anni che si chiama Luca Donadel, che pubblica dei video su internet e va spesso ospite in una trasmissione, credo Matrix, comunque fornisce del materiale a Matrix. È un ragazzino che ha fatto due calcoli, ha messo insieme due dati, ha preso due rapporti, eccetera, e ci ha fatto capire questo. Bisogna dirlo, ci ha fatto capire che in realtà qualcosa di strano nell'attività delle ONG sui migranti c'è. Tu lo sputtani sicuramente, io gli farei una telefonatina però. Sì, tu lo consideri un imbecille, un povero stronzo. Queste cose io non le dico. Sì, sicuramente. Comunque dai, chiamiamo questo Donatello, dai. Chi pronto? Luca? Sì? Sono Cruciani, ciao. Non ci credo. Come andiamo? E Parenzo, credici, invece inizia il tuo calvario, caro. Allora io voglio fare eroe nazionale Luca Donadel. Dovrebbe diventare l'eroe del fake. Dovrebbe diventare una specie di fake. Dovrebbe essere premiato. Tu sei convinto del fatto che le ONG collaborano con gli scafisti per portare gli extracomunitari in Italia? Questa è la sostanza, o no? Io ho fatto vedere le rotte. Che il fatto che gli scafisti collaborino con le ONG sarà una magistratura a accertarle. Cioè tu hai scoperto che lui non ha scoperto proprio niente. Chiariamo una cosa: non ha scoperto proprio niente. Come perché no? Ha preso dati che erano assolutamente, in genere chi scopre? Il Watergate ha scoperto qualcosa, ma non il signor, l'amico, il professor Donadel, il giovanotto Donadel. Il Watergate ha scoperto qualcosa. Ha fatto vedere un sacco di gente. Ha fatto vedere un tubo di niente. Cioè ha preso delle informazioni che erano note. Non è che ha fatto una inchiesta. C'erano informazioni note, cioè le rotte, che sono cose anche ma pubbliche. Ma tu non hai fatto nulla. Tu sei stato. Scusa. Tu passi la giornata a non fare nulla. Quello adesso, là ha studiato due tre adesso rotte. Chiedilo al mio filippino, perché non è esattamente. Però così. Luca, scusami Natale un attimo. Natale lavora molto, tutto il giorno lavora, legge, studia, ascolta Wagner. È vero che se la. Allora sì, il problema è un altro. Questo signore non ha mostrato niente. Vabbè, cioè ha messo insieme notizie, informazioni note e ne ha dedotto che le navi delle ONG salvano i migranti. Ecco la notizia. Come rispondi a queste cose, Luca? Ma dove rispondi? Dici, cazzo, il sole sorge ogni mattina. Sì. Se le cose che ho detto io tanto si sapevano già, no? Perché tanto erano già note, le sapevano tutte, erano così palesi. Perché proprio le indagini, perché adesso di mai inizio a parlarne proprio dopo? Cioè, due settimane dopo che ho fatto il video, tutti quanti si svegliano solo perché il video è diventato virale. Come risponde a questo il signor Parenzo? Cioè, non ha fatto un video. Niente, aspetta, ha fatto un video virale e poi. Di virale, cioè un virus, appunto. Ma un virus. Dai, si sconfigge col vaccino. In cui ha mostrato il vaccino è quello della buona informazione. Cosa ha mostrato di nuovo? Le rotte strane, chiamiamole così, sospette delle navi che vanno a prendere gli immigrati. Ma scusami, chiaro? Cosa c'è di sospetto sul fatto di una cosa che sanno tutti e che loro stessi hanno detto anche nelle audizioni? Spiegaglielo tu. Non c'è nulla di strano. Luca, le navi con il benestare della guardia costiera. Le denunce del fatto che queste rotte non è che sono sospette, il fatto che sono a 12.000 nautiche dalla costa della Libia. Sia Frontex in un suo report dice che questo può agire da pull factor ed esattamente quello che io denuncio nel mio video. Io non mi metto a fare accuse, io semplicemente ho fatto un lavoro che evidentemente alcuni giornalisti non hanno fatto. Ma sono dati, no, ma sono dati noti, questo le sto dicendo. Lo dicono le ONG stesse. Aspetta. Alcuni giornali hanno detto che il salvataggio veniva nel canale di Sicilia, quando venivano a 12.000 nautiche dalla costa della Libia, appunto. Questo è stato il mio video, è stato visto 2 milioni di volte. La cosa sospetta è il fatto che proprio perché stanno a pattugliare a 12.000 nautiche dalla costa della Libia, i trafficanti sono passati da usare gommoni, perché prima usavano delle navi di legno che affondavano molto di meno, adesso usano dei gommoni che li vendono anche su AliExpress, che è una sorta di Amazon cinese, no? E ci sono le prove che questi gommoni arrivano poi sdoganati a Malta e sono gli stessi che usano i trafficanti. E il fatto di andare così vicini agisce da pull factor e invoglia i trafficanti ad usare invoglia. Sì, Frontex dice un'altra cosa. Le bagnarole sempre più precari e questo provoca più morti. E cioè, mi dispiace per Parenzo. Cioè questi partirebbero. Ci sono due cose che vanno dette. Questi partirebbero comunque. Non è che partono. No, il fatto no, che si no. sa. Sanno che, ci che vengono ma salvati. Tutti ma meno male che sanno che vengono salvati. Ma ti credo. No, cioè, no, per forza. Perché non è che vengono salvati mentre sono in difficoltà. Diverso è sostenere che c'è un accordo tra le organizzazioni non governative e i criminali degli scafisti. Implicito. Ma c'è. Implicito una fava. Implicito c'è. Ma di quelle le fave toscane. Ma implicito allora, una bella Luca, fava. Luca, di cosa sei convinto tu? Il fatto che queste barche siano così vicine alle coste libiche. Mettiamola così. Che cosa provoca? Quali conseguenze provoca le barche dell'ONG? Semplicemente che è molto probabile, come dica, questi sono i dati che parlano, appunto, che andare così vicini possa agire da pull factor per invogliare. Che vuol dire? Invogliano, lascia perdere il termine tecnico, invogliano i trafficanti ad usare mezzi sempre più precari, perché al posto di fare mezzi 200 miglia per arrivare fino a Lampedusa devono farne solo 12 e possono usare delle bagnarole che affondano più spesso. L'altra cosa è, c'è un accordo secondo te implicito tra le ONG e i trafficanti? È andato di fatto che ci sono delle persone che collaborano con le ONG che hanno dei contatti diretti con gli scafisti. Ha scoperto, incredibile a dirsi, che le navi delle ONG salvano i migranti. Ma non porca ha scoperto solo puttana, questo. La cosa ha scoperto che non... Mamma mia, Luca, ragazzi. Rispondi tu per favore. Mamma mia, una roba magistrale. Devo fare ho già risposto prima. È un peso dei dati. C'è differenza fra sentire un dato, no? Poi ma infatti, dai, andiamo a prendere le gente davanti alle coste della Libia e vederlo effettivamente. Effettivamente, quando le persone poi vedono. Ma nessuno lo sapeva. L'opinione pubblica non lo sapeva dove venivano presi gli migranti. sola che no, lo è nel... no, non lo sapevi nemmeno e tu. Che differenza fa? Fa grande differenza quello che ti ha spiegato prima. Che differenza fa sapere che stavano entrando, come dire, nel o nella zona internazionale? La vuoi sapere tutta? La vuoi sapere tutta? È evidente che c'è un accordo implicito. Loro sanno, loro dicendo, sanno, cioè, i trafficanti sanno che c'è qualcuno ormai che li salva. Con la rete, con internet, la rete, è ovvio che vedono che ci sono anche i migranti che scappano. Non è che non si informano, non è che sono stupidi quelli che scappano. Dicono, no, speriamo di morire in mare. Luca, è ovvio, lanciano l'SS, no? Ma è evidente. Ciao, ciao Luca. Saluti, professore. Saluti, professore. Comunque la realtà, ragazzi, è molto semplice. Questo ragazzo ha 22 anni e 23 anni, sì, va bene, ha scoperto, poi tu non dirai che non ha scoperto nulla, ci ha fatto drizzare le antenne su qualcosa che è accaduto, che accade nel Mediterraneo. Ed è molto semplice, David. Se uno parte dalla Libia, che arrivi in Italia, ti dico io, deve avere la fortuna e in qualche modo la bravura di arrivassero in Italia direttamente. Che arrivino in Italia, prima non succede nulla. Siete così bravi da arrivare in Italia? Arrivate in Italia. Non è che ti vado a prendere a 12 miglia dal confine con la Libia. Sei. Certo, assolutamente. Volete arrivare in Italia? Arrivate direttamente in Italia. 368 morti. Ma non, ma che c'entra quello? Ma che c'entra quello? Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? In un giorno solo. Ma che vuoi dire con questa? Ma che vuoi dire con questa frase? È evidente che la priorità assoluta è quella di salvare le vite umane. Questo non lo dicono le ONG buone. Ma è un business, non l'hai capito ancora. Ti ho già spiegato ieri che una di queste ONG ha visto in un anno aumentare i contributi privati da 70.000 euro a 6 milioni. E dov'è il crimine? Ma non se sono uno crimini, che svolge sono un quattrini, servizio, quattrini. Riceve fondi dai privati, peraltro. Ma chiaramente per con la visibilità che Stato, tu hai. Ma non c'è nessun servizio. Non è un servizio andare a prendere la gente. Camorra, ma non sono è un servizio. Ma tu ti rendi conto? Cioè, allora, diciamo che il soccorso in mare. Ma non è soccorso in mare, Davide. Ma non essere così ingenuo. Non essere ipocrita. Ma non essere così ingenuo. No, vai fino in fondo, di che il soccorso in mare non va fatto. Ma no, dillo. Ma non essere così ingenuo. Devi dirlo, ma devi non dire è così. Questo. No, devi dire che il soccorso c'è in mare non va fatto. C'è gente che se ne approfitta. Ma chiaro? Che se Andrea approfitta? Da di Torino. Che cosa? Salvare una vita umana e approfittarsene? Ma d'accordo, ma tu riduci ciao, tutto ragazzi, a salvare una vita umana, dunque consideri quelli che contestano questa roba qui come dei poveri assassini o comunque delle viene persone messo in discussione. Dai, il soccorso in mare. Ma che ripeti le stesse parole di Saviano? Le stesse parole di qualcun altro? Cioè ripeti a pappagallo le parole che dicono gli viene messo in discussione? Certo. Ma quale discussione? Il tema è questo. Qui stiamo parlando di associazioni riconosciute, Andrea Medici Sans dai. Frontiere, ma, Save the Children. Ragazzi, ma cioè, è ridicolo, posso dirvi una cosa? Sì. È ridicolo che con i servizi segreti che abbiamo in Italia ci sia un ragazzino che va a strisciare la notizia che era fuori lo scandalo. Ma è possibile? Ma il motivo della mia chiamata non è questo. E qual è lo scandalo? Io faccio l'avvocato da quasi 30 anni, ero penalista. E volevo raccontarvi una cosa un po' di esperienza. Voi parlate della legittima difesa delle pistole. Sì, però togli il viva voce, amico mio, dai. Hai sentito prima? Non dai. Sono viva voce. No, sono in bomba, ma auricolare, no? Niente auricolare. No, nemmeno. No, tutto. Vabbè, buono, dai, vai. Tantissimi anni fa, io ho avuto un processo dove in un'autocarrozzeria, sì, una faccia carrozza, c'erano dei cani ferocissimi e uno zingarello era entrato dentro, sì, c'era il cartello, attenzione, cani feroci, sì, e questo povero zingarello è finito sbarazzato. Io mi ricordo in questo processo il titolare della carrozzeria è stato assolto in quanto c'era il cartello, attenzione, cani pericolosi. Questa è un'alternativa alle armi. Sì. Charci, vabbè, crudele finché volete, però i cani, tu dici i cani, dici? Eh sì, è stato assolto. Io me lo ricordo benissimo. Vabbè, processo, io ero praticante. Ci sono molte persone che hanno i cani che assaltano i ladri. È morto, poveraccio. A me dispiace, povero Cristo. Vabbè, è morto. Se uno va a rubare in una casa, si assume il rischio, amico mio. E infatti, il pretore c'è ancora. Ma pretore, scusa, ma uno può essere, cioè, io, questa cosa anche è ridicola, no? No, però la vita umana. Ma scusa, ma se uno entra dentro casa tua e per andare a rubare, sa benissimo che il proprietario può essere armato, può avere dei cani, ti può rispondere con una pistolettata, ti può rispondere con un colpo in testa. Corri dei rischi. Sì, ma la procura se teoria, poi crepi, non mi interessa, sono indifferente a tutto questo. A me che cazzo me ne frega? È un principio di sinistra, perché la gente, perché le persone, sì, ti dico io perché è un principio di sinistra, perché le persone che sono più minacciate non sono i ricchi. che hanno le guardie private, i cani, dire, i bulldozer. Sono le persone, le piccolissimi imprenditori, ristoratori, conosco persone così, popolo, normale, gente, proletari, gente normale, lavoratori, sono le persone più minacciate. Vengono smaligiate anche le case dei certo, assolutamente. Come penalista, vi do il camotaggio. Uno cosa va a smaligiare una casa di un povero, non credo. No, ma no, io non dico i poveri, sono i piccoli, non i ricchissimi, sono le persone anche meno protette, piccoli imprenditori che sono in provincia, che sono in campagna. Mi risulta che noti VIP sono stati vittime. La signora di Rosina, che è stata? Che ha fatto? Ma cioè, che è ricca la signora Rosina? Vi do una dritta. L'escamotage per farvi assolvere di un caso del genere è mettere un cartello. Attenzione, cani pericolosi. Con questo cartello, esatto, mi salvato. Vabbè, ci fu un altro processo interessantissimo di Roma. Scusate. Vabbè, adesso poi non è che dobbiamo fare la storia giudiziale dei casi. No, però questo foro è interessante. No, qual è la dritta? Dimmi, qual è la dritta? Il cartello. Se volete il cartello, verrete, il procedimento viene archiviato in automatico. Se c'è il cartello, vabbè, ma lo sappiamo. Ciao Andrea, ciao. Io non lo sapevo. Sì, perché il cartello serve appunto a questo, no? Che se te un cane poi da zanna, tu hai messo il cartello, attenti al cane, altrimenti a che cazzo serve il cartello? Oltre a non far avvicinare le persone, in teoria. Quello pensavo. Ma anche a come dire, a liberarti da un problema. Scriminarti. Sì, scriminare. No, sì. Mi dà fastidio la parola scriminarti. No, così l'espressione scriminarti. No, così insegniamo allora, un po' di questi miserabili. L'Italia nuova, è un paese, nuova. Ti posso dire che l'Italia è veramente un paese di buffoni. Cioè, oltre a questa cosa ridicola per cui il governo, oggi il governo, gli azionisti di maggioranza del governo dicono che la legge sulla legittima difesa dopo miliardi di anni di discussioni va rifatta, perché hanno sbagliato la notte e altre cose, ridicolo, dopo anni di discussioni talk show, hanno tolto la squalifica a Montari. Cioè, tu hai fatto tutto un casino e hai tolto poi la squalifica a Montari. Ma io non voglio che sia squalificato. A me sembra giusto questo. No, ma lascia perdere, è quello che mi stupisce, è questo. Non c'è mai una cosa, la sollevazione popolare e poi tolgono la squalifica a Montari. Ma vaffanculo, ma siate coerenti. Che vuol dire togli la squalifica a Montari? Pensi che si è rivolto male verso l'arbitro? Pensi che ha fatto qualcosa di che non andava fatto? No, siccome c'è stata la rivolta buonista e antirazzista e Montari è diventato un simbolo. Ma che buonista. Dai, su, è patetico, dai. Tolta la squalifica a Montari. Poi un paese del cazzo, non c'è niente da fare. Poi un paese del cazzo. E dobbiamo finire. Chiudi tutto. Antonio da Bari. Prima, ci vediamo lunedì. Antonio, dai. Aspetta. Chiudi Antonio. La baracca, tanto ormai. Antonio, amico mio. Tutto finito ormai. Ma no, ma che tutto finito? Sì, dai. Tutto finito. Anto, dai. Sì, si capisce che la trasmissione poi 20:51 perde subito. No, ma che perde? Che perde perché tu ti fai venire il cagotto, Antonio. Dimmi. Parenzo, posso fare una domanda? No, sì, sei viva voce. Auricolare, comunque dimmi Anto. Mi annoia questo qui. Dimmi Anto. La voce, a me figurati come annoia la tua voce. Dai, però Antonio, sembri una spelonca che stai in un non so in quale caverna stai. Posso dire che mi annoia questo? Dai, dimmi allora. Oh. Dimmi. Ma vai a fare in culo. Ciao ragazzi, a lunedì, ciao. Ciao. Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà, taci miserabile. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. No, tu sei la merda! Tu non conti un cazzo! Radio 24. Libera la voglia di fare.